ringrazio i relatori che sono qui con me, che sono Luca Alteri per il collettivo Militant, Pasquale Batangelo, Barbara Balderani e Salvatore Ricciardi, che mi ha ispirato in questo lavoro in qualche modo. Esatto. Allora, io farò una breve introduzione proprio perché gli interventi sono tanti e sicuramente sono più competenti del mio. Il motivo per cui ho cominciato questo progetto, di cui questo libro che c'è qui oggi vorrebbe essere solo l'inizio in qualche modo, ha a che fare sia con la mia formazione da storico, ho avuto questa disgrazia di poter fare storia all'università, sia con la mia militanza politica, che è la seconda disgrazia della mia vita. Infatti da subito, lo dico fin da subito, questo è un libro di parte, è un libro schierato, politicamente schierato. Questo perché penso che in questo momento storico schierarsi apertamente sia necessario, proprio nel momento in cui, come la scorsa settimana la coordinamenta raccontava proprio durante un'altra iniziativa qui a Mille Diverse, i centri di comando economici, politici, ma anche culturali stanno passando in mano a strutture che si autodefiniscono in qualche modo super partes, equidistanti o tecniche, insomma possiamo definire come ci pare. Allora, partendo dal presupposto che tutta questa narrazione sia in qualche modo falsata e che invece questi centri di potere portino avanti dei disegni politici, economici e culturali ben precisi, ho pensato di cominciare questo lavoro di recupero della memoria di classe, quindi della nostra memoria di classe, che quindi è una memoria di parte. Questo perché? Perché nonostante i tagli, le difficoltà che il mondo della cultura umanistica in generale sta attraversando, lo Stato e il potere avranno sempre bisogno in qualche modo di una legittimazione. E questa legittimazione passa anche attraverso l'uso della storia, della memoria. Solo a titolo esemplificativo, a me viene in mente i viaggi che vengono organizzati nelle scuole nei lager nazisti o sul nostro confine orientale per ricordare le foibe o l'esodo istriano, tutta quella storia là. Ma anche più recentemente tutte le iniziative sulla legalità che vengono organizzate nelle scuole, soprattutto nei licei, e che in qualche modo vanno anche sempre a parlare di lotta armata, accomunando tutta una serie di dinamiche che non c'entrano niente l'una con l'altra, insomma, mafia, lotta armata, le versioni di destra. Un discorso a parte meriterebbe il fatto che il mondo accademico in Italia è popolato da un gran numero di esponenti di sinistra, molto spesso anche di movimento, e nonostante ciò il mondo accademico non riesce a esprimere nessun tipo di pratica conflittuale, nemmeno a livello soprattutto culturale, e quindi in qualche modo è come se noi stessi ci castrassimo quando poi dobbiamo entrare nelle istituzioni accademiche. Diciamo, la crisi della militanza che stiamo vivendo in questo periodo, indubbiamente stiamo vivendo, è collegata da una parte a un ritardo nell'analisi della realtà che ci circonda da parte di gran parte del movimento di classe, però dall'altra parte questa incapacità è anche quella di esercitare egemonia culturale su settori della società che non siano direttamente i militanti. Questo è ancora più grave per il fatto che noi stessi stiamo perdendo in qualche modo quella che è la nostra storia, la nostra memoria di classe, e in qualche modo perdendo il nostro immaginario perdiamo la capacità di trasmettere questo immaginario anche ad altri e quindi esercitare quell'egemonia culturale che dicevo prima. Quindi vorrei che questo lavoro e questa iniziativa fossero considerati come un inizio, una specie di cantiere della memoria, perché ovviamente comprendere da dove veniamo è necessario sia per capire chi siamo, ma anche per immaginare insomma le strade che si possono percorrere. Fatta questa iniziativa e fatta questa premessa, io lascerei la parola a Barbara. Se gli va di dire due cose. Due sedie qui circa. Allora, questa impostazione che ha dato Otto a questo suo libro, a me piace molto, nel senso che io credo che la storia sia una materia da storici, appunto, che si documentano, che mettono a confronto le fonti, che non sbagliano una virgola su quello che raccontano. Mentre la memoria, secondo me, quando è così personalizzata, cioè che sta viva attorno alla figura di una persona, in questo caso di Salvatore, secondo me può averci degli svantaggi, nel senso proprio di magari qualche defaianza nei ricordi o qualche cosa che uno rielabora in un'altra maniera rispetto a, perché è ovvio che sia così, cioè ognuno poi c'ha la sua, insomma. Però c'ha un grossissimo vantaggio, secondo me, che è quello di dare carne e sangue a delle figure. Cioè una fisionomia che non è quella astratta, no? Che normalmente così viene disegnato il brigadista rosso oppure altre figure, insomma. È Salvatore, non è, che è portatore di una storia sua particolare, che invece è molto interessante andare a vedere, perché ti fa appunto uno spaccato rispetto a quello che è l'origine sociale del militante, della stragrande maggioranza dei militanti della nostra fu organizzazione. E questa è una cosa secondo me fondamentale, perché questa figura qui in particolare è stata mostrificata e misconosciuta da quella che poi è stata la propaganda più che la storia, proprio la propaganda successiva che ci ha massacrato praticamente, in cui non si capisce bene da dove veniamo, chi siamo, quale famiglia marziana ci ha mai messo su questo pianeta, estranei alle dinamiche sociali di questo paese, e questo è un tantam che va avanti da 30, 40, insomma, e ci sono anche riusciti, devo dire, perché ormai il senso comune è questo, che è appunto quattro matti che una mattina si svegliano, vanno a Via Fani, fanno quel casino, spalleggiati non si capisce bene da chi, fine della trasmissione. Questo è quanto. Da questo punto di vista, gli storici, secondo me, si è visto bene in questo ultimo periodo, questo cavolo del quarantennale che ci ha massacrato a tutti, gli storici non è che hanno avuto una grande funzione, almeno io non mi risulta che siano stati così presenti dentro questa ondata, quanto di più invece sono stati proprio i media. Quindi delle persone più o meno informate, poi fanno pure finta di non saperle cose, insomma, perché poi certi errori scivolano nell'orrore, cioè noi che abbiamo ammazzato i compagni, noi che abbiamo cose veramente, veramente dure, però dette in televisione, quindi una certa. Quindi la cosa si è praticamente impoverita, si è immiserita, non è neanche più una contestazione nel merito delle cose che sono successe, magari fosse così, sarebbe già un piano, no, di dialettica all'interno delle varie posizioni che si possono avere, no, è un insulto praticamente, è un insulto gridato, che non lascia margini a nessuna possibilità di contestazione di una cosa del genere. In questo dico, appunto, a parte l'Accademia, che sappiamo come cavolo sta ridotto, perché si vede, insomma, cioè, dicevamo anche l'altra volta, no? A Tor Vergata c'è stata una un'iniziativa nell'Istituto di Storia, e mi dicono, perché non lo conosco questo signore, però mi dicono il direttore di questo istituto, non è manco un becero, ma pare che sia pure uno quotato, che ha messo insieme la commissione parlamentare praticamente, quindi una voce univoca dentro. Come fai a ricostruire le cose se parti solo ed esclusivamente da un indirizzo e non metti, no, a parte che non esprimiamo nessuna volontà ovviamente di parlare con questi signori, però da una parte dicono che dobbiamo tacere, dall'altra parte che siamo reticenti perché non parliamo, cioè è un giochetto veramente sciocco, però che funziona sicuramente, per cui adesso chi in quegli anni non ci stava oppure chi se l'ha dimenticato, perché pure quello è un problema, oppure ha cambiato idea talmente radicalmente che fa finta di aver visto e vissuto cose diverse, è facile far passare una verità, è quella che viene chiamata la memoria condivisa. A parte questo momentaccio brutto che va avanti da qualche decennio, non so bene quando è che potrà mai vedere la luce, ma in ogni caso, che significa memoria condivisa? Cioè, come si fa in una società divisa in classi ad averci una memoria condivisa? È una contraddizione in termini praticamente. Quindi la cosa che diceva Otto nella sua prefazione, che appunto lui ha scritto una cosa di parte, è il minimo della vita, io credo. Non esiste una storia asettica, non esiste una storia obiettiva, esiste la storia ufficiale che non è asettica per niente, perché c'è un punto di vista padronale chiaramente, in questo caso capitalistico, quindi non lascia spazio a nulla, e in ogni caso non esiste nessuna possibilità di mettere insieme le storie diverse, perché ci sono interessi diversi dietro, ci sono finalità diverse, perché la politica ha steso una coltre, non un velo, una lapide sopra al... Tant'è che oggi, io mi ricordo che i tempi delle guerre puniche, tirare il filo in riferimento al discorso della resistenza, per quanto ingenuo poteva essere, no, della resistenza tradita, tutte queste cose qua, però era ancora possibile, cioè quindi non c'era questa interruzione così netta come c'è adesso. Adesso appunto c'è questo filo si è spezzato, cioè nel senso che non si riesce a bucarla sta oltre che gli si è calata sopra, perché è diventato nel racconto ufficiale, ma sempre più sgangherato, però sempre più volgare se vogliamo, però diffuso a livello massificato, non è uno che se va a leggere un libro che già è qualcosa, già il passaggio, ma è il sottofondo della televisione, è il sottofondo dei suoi social, so questo modo appunto sciatto e sgangherato di fare comunicazione che non comunica assolutamente niente, cioè, infatti questa cosa che tu scrivi è molto giusta, cioè sono aumentati i mezzi di comunicazione ed è diminuita la comunicazione. Questo non è comunicazione, questo è il massimo della esaltazione dell'individuo attuale, che deve essere assolutamente separato uno dall'altro, ognuno si parla addosso, se qualcuno gli dice che i muri non sono perpendicolari, al massimo parte qualche insulto, ma non è che c'è confronto o di idee, cioè perché non sarebbe possibile con una velocizzazione tale, no? Non ti dà modo di elaborare un'informazione, quello che dice un altro, non si può discutere in quella maniera, è proprio impossibile. Quindi ci troviamo in una fase veramente da fase totale, cioè non si riesce a... Però questo passaggio di testimone, voglio dire, in riferimento a persone che comunque alcune esperienze le hanno fatte e possono riraccontarle, cioè perché questo fatto di essere immersi in questa menzogna quotidiana, oggi ci hanno detto che c'è c'è un governo, come l'hanno chiamato? Questo nuovo qui? Giallo verde. No, amorfo, come l'hanno chiamato? Amorfo, sì. Che è? Senza parte. Che cos'è? Cioè, che vuol dire? Cioè, è tutta una, appunto, è tutta una. Balneare. Tutta una menzogna, ma no, balneare significava una cosa. Adesso non mi ricordo il termine. Ma è assurdo, cioè non è vero, sono bugiardi questi signori. Però riprendere un filo di possibile racconto anche da parte di chi qualcosa c'ha da raccontare, perché c'è avuto un'esperienza che credo sia abbastanza irripetibile, almeno nel prossimo futuro, perché noi siamo stati, è vero che siamo stati, però voglio dire, ma alla faccia, perché veramente un anni ricchi come quelli, e questa cosa non si dice mai, si dice soltanto gli anni di piombo, la galera, i morti, il sangue, la vittima, tutto quello che vi pare, ma non si dice che quegli anni sono stati ricchi di conquiste, di lotte, di capacità di comunicazione, di inclusione, di... ci stavamo benissimo, non è che, ma anche di ricchezza, anche intellettuale, anche i film che si facevano in quegli anni, non per dirne una, oggi se ne sogna proprio, o la musica, però insomma, non si può dire, insomma, dice, sei vecchio e non capisci le nuove tendenze, tanto mi viene il dubbio che forse è vero, comunque quella musica fa schifo e me la tengo. Ci stanno due forze che secondo me in questo momento da un bel po' hanno scavato e hanno lavorato a fondo. Una è quella del grande complotto, quindi del chi c'è dietro, chi c'è davanti, chi c'è delato, che non si capisce bene dove. E l'altra è quella del cosiddetto paradigma vittimario. Tutte e due vanno in un senso univoco, secondo me, che vanno a rompere praticamente la possibilità stessa di pensare ad una necessità, della necessità del conflitto. Cioè che una volta era pane quotidiano, no? Il fatto che non esiste storia se non c'è conflitto, non esiste possibilità di movimento se non c'è rottura, ma questo sembrava veramente la cosa banale che uno potesse pensare. Invece questo fatto che appunto la ricchezza degli anni 70, delle varie cose che sono successe, ne sono successe veramente tante, sono state ridotte tutte quante a un'unica giornata, anzi una mattinata addirittura, dietro la quale ci state tutto, cioè dai marziani appunto, alla 'Ndrangheta, altri servizi segreti di ogni genere e qualità, toglie praticamente ogni legittimità di esistenza stessa di quel come se Viafani fosse venuta fuori da un lampo di una mattina e lì si fosse anche esaurita, cioè senza capire il percorso, il contesto e tutto quello che ha reso possibile in un paese come questo più di 10 anni di lotta armata comunista, che non è una cosetta da niente, cioè è evidente che c'era una specificità particolare di questo paese. 40 anni di democrazia cristiana sono pochi. E l'altro è il paradigma vittimario, cioè il fatto che praticamente gli unici che hanno non solo voce in capitolo e quindi monopolio della parola, ma anche legittimità e ragione, sono quelli che non hanno fatto nulla, quelli che hanno subito. Quelli invece che hanno fatto sono colpevoli e sono da buttare in eccesso. Questa non è una cosetta, è un'operazione politico-culturale molto raffinata e molto pesante, nel senso che praticamente ti toglie anche lì la legittimità, nel senso che se tu sei colpevole in quanto hai fatto, poi quello che hai fatto non fa niente, tanto è una cosa che ormai sembra che tutti la sanno, qua nessuno sa niente, nessuno conosce niente, perché in questa confusione che si è creata non si riesce neanche a entrarci nel merito delle questioni. Si riesce a criticare gli anni 70, come fai a criticarli in una situazione del genere? Non puoi, perché devi per forza barricarti nella difesa di una, impediscono della discussione, impediscono, bravo. E quindi queste due forze concentriche sono una veramente un'arma terribile che recitano praticamente il fatto che come se fosse normale quello che è il mondo di oggi, cioè il fatto che il capitalismo abbia vinto sull'altra opzione che c'era prima della caduta di tutti i muri possibili immaginati, che quindi l'unica società ammessa, accettata, che doveva andare bene anche ai proletari è questo caso di sistema, come se fosse il massimo dell'aspirazione umana, quella di farsi sfruttare e poi morire ammazzato prima di riuscire a prendere le pensioni. Ecco, questo è il massimo della. Però viene, tutto questo viene, no? Viene fornito come se fosse una cosa naturale, come se non ci fosse altra possibilità. Ecco, poi Salvatore magari farà la sua provvisione su tutto quel papò di roba che è scritto lì sul diritto, eccetera, eccetera, che è pure quello. No, ma quello è racchiudibile, in un pensiero povero come il mio, cioè non esistono i diritti, esistono i rapporti di forza, ma i diritti sono quelli che sono le carte che vengono scritte quando, alla fine di un conflitto, no? E si sancisce una cosa, ma poi devi procedere, perché nessuna conquista è mai perenne, perché il potere ha questa capacità anche di prendersela, di farla sua, di cambiare i colori, la fisionomia, e tu ti ritrovi, diciamo, scusa, quello era un terreno mio, perché ci stai tu adesso? E quindi questa cosa di che cosa ricordare, di come ricordare, come scrivi tu, e che cosa dimenticare soprattutto, è questa capacità di selezione della memoria che ti disarma prima in testa e poi anche la parte a parte. C'è una espressione che usa Otto, che mi è piaciuta molto, in questa sua sottolineatura dell'importanza del soggetto che ha fatto un percorso, in questo caso Salvatore, che dice, che mo sicuro se la trovo, e dice, che dice? Ah, eccola, Salvatore fa parte della storia. È un soggetto a cui appartiene il futuro, mentre il presente sembra travolgerlo. A me sembra bellissima questa cosa, cioè nel senso che nella sua collocazione storica, appunto, poi magari chissà quando, chissà come, non sta nelle nostre, non abbiamo la palla di vetro, però è vero che c'è la negazione di questo presente, comunque, anche se uno non fa la rivoluzione, perché la rivoluzione è una cosa sempre, la fa in alcune condizioni, quando hai fa un vento, appunto. Quindi nel momento in cui questo presente ti ha annichilito, perché più o meno è così, sei carico di futuro, io la trovo molto azzeccata e anche molto profonda, cioè nel senso che ci andrebbe ragionato sopra una cosa, non per farsi che tanto lo vai, insomma, cioè, questo è e questo è quanto. Quindi, un'altra cosa che volevo dire, poi mi taccio, è una cosa molto interessante secondo me. Salvatore c'ha qualche anno più di me e siccome non volevo sottolineare questo è obiettivo, non volevo immagino che siete per il malore, non siete neanche odori, ma che per il no, io volevo dire un'altra cosa, che rispetto al percorso, appunto, siccome apparteniamo alla stessa classe, però la differenza sta proprio negli anni che ci dividono, cioè io vengo da una famiglia di 5 figli, i 4 precedenti hanno fatto l'istituto tecnico, sono andati a lavorare e quello era e quello non era, e non c'era proprio possibilità. Io, che sono un attimo dopo furba, invece me la sono risparmiata sta storia e sono entrata dentro una dinamica sociale diversa in cui la rottura degli anni 60 fino al 68, l'esplosione totale sociale e compagnia bella, è stata quella che ha permesso il cambio di faccia di questa società. Quindi io non ho avuto mai rapporti con PC, per esempio, non era assolutamente nel sacco, cioè già c'era la divisione, già c'era bella che netta quando io ho cominciato a fare politica nel momento in cui sono arrivata a Roma, e quindi non c'era proprio nessuna, e né cioè quel movimento era così forte, così autonomo nelle sue impostazioni teoriche, nella sua prassi, che il fatto che esistesse un partito comunista come quello che ci abbiamo avuto, il più forte d'Europa, e un sindacato comunista più forte dei forti, non ci implicava assolutamente la strada, non ce l'impediva la strada, perché la possibilità di conquista e di procedere era quotidiana, praticamente i risultati si vedevano. Salvatore dice una cosa a un certo punto, lui si riferisce più ai carcerati, quando dice che adesso invece di lottare i carcerati si ammazzano, oppure prima dell'esplosione nelle fabbriche, nelle carceri succedeva questo. Perché non perché le condizioni non fossero brutte abbastanza, ma perché non c'era la fiducia nel fatto che potevi lottare e potevi vincere, cioè non c'era un terreno positivo e prospero per passarci sopra, e quello è fondamentale secondo me, se no oggi non si capirebbe l'oggi, no? Se forse siamo anche peggio degli anni 70, però non si riesce a nucleare delle idee di superamento di questa cavolo di situazione che ci possa riarmare le teste e forse anche le mani. E questa cosa qua è proprio la cosa di quando tu intravedi un cammino praticabile, vedi che su quel terreno là è possibile conquistare, e allora su quello procedi. È stata un po' l'idea, secondo me, molto giusta del Brigate Rosse all'inizio della propaganda armata, praticamente, che era spianare da parte di alcune avanguardie, di spianare la strada per poi riempirla di altro. Poi ci sono alcune cose su cui non sono d'accordo, ma fa niente. Magari no. Comunque io passerei la parola a Pasquale, prima però volevo dirti a proposito. E credo che sia un registratore. A proposito del grande complotto che hai nominato, io volutamente di fronte non ne parlo, perché non mi interessa, penso non ci debba interessare rispondere a questo tipo di dinamica. Se facessero i loro convegni, le loro tavole rotonde, i loro complotti, noi dobbiamo ragionare su un altro piano. E quindi, tant'è che l'anno scorso partecipavo alla presentazione di un libro che secondo me ha fatto bene, quello di Persichetti, Sant'Elena, sulle Brigate Rosse, il primo volume, e dal pubblico l'intervento gli rimproverava di non prendere in considerazione ogni tesi complottista che era stata tirata fuori. Ah, 40 anni in questa parte. È un problema. Il problema è che secondo me l'unica soluzione è semplicemente pregarsi. Comunque, detto questo, passo la parola a Pasquale. Sono anche migliaia di tesi complottiste, quindi il Mossad, il KGB, i rettiliani. Buonasera a tutti, io sarò molto più breve di Barbara. Diciamo che iniziative come queste sono molto importanti perché ci consentono di riallacciare i fili diciamo, con la nostra storia, con la nostra memoria storica da un punto di vista di classe. Dopo anni e anni, cioè io sono uscito dal carcere, ormai sono più di 20 anni, e solo in questi ultimi anni vedo che inizia a muoversi delle cose, diciamo, sulla riflessione sulla nostra storia, finora il campo era sempre stato lasciato completamente in mano al nemico, nel senso, di fatto, per un motivo o per un altro, perché noi ancora eravamo con un piede dentro, un piede fuori, eravamo in condizioni di ricattabilità estrema, e quindi dovevamo fare attenzione sia nella frequentazione dei luoghi, sia nelle cose che dicevi. Appena il ritorno in carcere non batte d'occhio, insomma, che quando sei in condizioni di semi-libertà o di libertà condizionale, in realtà sei con un piede dentro e un piede fuori. In questi ultimi anni invece, grazie anche a tutta una serie di lavori che hanno fatto sia Barbara sia Salvatore, poi l'ultimo arrivato io, insomma, si è iniziato, diciamo, un dibattito, e si sta appunto iniziando a riallacciare questi fili di questa memoria e di una storia di classe che in tutti questi anni è stata praticamente negata sotto una coltre di tesi complottarde che si soffermava parecchio sui dettagli per non farci riflettere sul significato profondo, diciamo, del conflitto che è successo nel nostro paese, un conflitto che è durato una quindicina d'anni e che non avrebbe potuto avere, diciamo, sia questa continuità, sia questa, se non questa forza, nel senso che è stato un conflitto serio, se non ci fosse stato un radicamento nella classe tale da poterlo consentire. Tant'è vero che la lotta armata è venuta meno quando questo grande movimento è rifinito, insomma. Non è un caso. A quel punto sì, noi abbiamo continuato per qualche anno tentando di portarla il più avanti possibile, ma effettivamente senza quelle condizioni politiche e sociali non era possibile andare avanti. E infatti poi hanno dimostrato molti compagni, diciamo, all'inizio delle riflessioni che sono state fatte in quegli anni sul fatto che ormai non c'erano più le condizioni per poter portare avanti il discorso della lotta armata. Tanti, forse la maggioranza di quelli dissociati, che sto parlando, che erano convinti che invece queste condizioni ci fossero ancora, poi i fatti storicamente a questo punto sono sotto gli occhi di tutti, insomma, che le cose alla fine degli anni Ottanta, insomma, era finito tutto, e probabilmente la riflessione che abbiamo avviato noi l'abbiamo avviata anche troppo in ritardo. E ne abbiamo pagato anche le conseguenze di questo, ne abbiamo pagato le conseguenze perché chiaramente si è interrotto un dialogo, nel senso c'è stata un'interruzione non con una generazione ma con più generazioni. Quindi oggi riallacciare questi fili è molto complicato perché hai a che fare con 2 o 3 generazioni che in questa storia hanno sentito solo la voce del padrone, le narrazioni del potere, ed è difficile orientarsi, diciamo, diciamo, con i propri mezzi quando c'è un bombardamento a tappeto praticamente di guerra psicologica, di negazione di una storia, di un'identità e anche di una dignità politica, di un'esperienza come quella nostra. Diciamo, io ho letto questo libro, mi è piaciuto anche a me, mi è piaciuto molto, nel senso, proprio perché, come diceva anche Barbara, è dichiaratamente di parte, e in una società divisa in classi non può esistere una memoria condivisa, è una barzelletta. ragazzo che sostiene una cosa del genere. Ognuno porta avanti acqua al suo fine. Basta vedere quella che è la storia ufficiale, ci si rende conto, insomma. Se non altro, noi cerchiamo in tutti i modi di rimanere il più vincolati possibili a quelli che sono stati fatti, le evoluzioni dei fatti. Non ci inventiamo storie o storielle per denigrare l'avversario. Per cui diciamo, è importante, appunto, serate come queste, libri come questo sono importanti, e so che ne verrà fatti altri e questo appunto, mi fa piacere perché è vero che la storia la devono fare gli storici, no? E forse riescono a farlo meglio anche di noi che siamo stati coinvolti, diciamo, siamo direttamente coinvolti e quindi possiamo avere delle visioni un po', diciamo, sfalsate, diciamo, anche a distanza di tanti anni, eccetera, nel ricostruire questa storia. Gli storici, andando a ricercarsi i documenti, andando a rileggersi tutto, avendo anche delle testimonianze dirette, possano svolgere questo compito. Fino ad ora questi storici non si sono visti. E solo appunto anche questo, solo in questi ultimi anni comincia a esserci dei giovani storici coraggiosi che praticamente combattono contro tutto, si trovano di fronte una potenza, insomma, che lavora da tanti anni e che segue un solco ben preciso, che appunto è quello della negazione totale di quello che è successo in questo paese in 15-20 anni di lotta di classe. Si cerca di ridurre il tutto alla lotta armata, non c'era solo la lotta armata, in quegli anni c'è stato un grande movimento di massa, si è espresso a vari livelli, anche culturali, politici, artistici, eccetera. C'è stato movimenti che non possono essere, diciamo, inclusi nella lotta armata, anche se praticavano la violenza rivoluzionaria e avevano all'interno anche le strutture adeguate per poterla praticare. Si è ridotto tutto alla lotta armata, poi la lotta armata è stata ridotta tutta alle Brigate Rosse, e questa è un'altra operazione di riduzionismo pazzesco. Poi la storia delle Brigate Rosse è stata ridotta a un evento, a Moro. A quel punto non si capisce più niente, è ovvio, no? Perché nel senso Moro, boom, lo sparo nel buio, senza all'improvviso un'organizzazione che sa arrivata da dove fa un'azione di questo tipo, ma se si guarda il percorso storico è assolutamente naturale che si arriva a Moro. I documenti delle Brigate Rosse, le risoluzioni strategiche fin dall'inizio parlano chiaro per chi se le vuole leggere. Parlano chiaro, individuano la Democrazia Cristiana come l'asse centrale, l'asse portante dello Stato imperialista delle multinazionali. Portano avanti una lotta contro questo partito che dichiaratamente sia dal basso che dall'alto, nel senso la DC è attaccata a vari livelli, diciamo, dalla lotta armata, in particolare dalle Brigate Rosse. E si arriva all'azione più importante e significativa, diciamo. Però questa storia non è stata solo questa. Tant'è vero che i dati del Ministero degli Interni dicono che c'è stato 267 sigle di organizzazioni combattenti, molte saranno state fittizie, avranno fatto poi hanno cambiato nome, tutto quello che vuoi, però insomma la situazione era molto complessa. C'è stato 12.000 azioni combattenti in 10 anni e di cui io non lo so, ma penso che le Brigate Rosse ne avranno fatte 300, più o meno, su 12.000, non so se ci rendiamo conto di cosa si sta parlando. Quindi si è fatta un'operazione di stravolgimento attraverso di ridurre a tappe forzate a un evento che poi poteva essere manipolato e raccontato nei modi più incredibile, insomma. poi andando nei dettagli, i rubinetti, cose, anziché di parlare di storia, di politica, come mai c'è stato questo conflitto, da dove viene, eccetera, eccetera, c'è un'origine nella storia di questo paese, non è? Prima del 68 c'è stato il 62, voglio dire, c'è stato è un paese attraversato da grandi lotte di classe, da grandi momenti anche di lotta rivoluzionaria, insomma c'è stata la resistenza, avevamo un partito comunista che rappresentava un terzo della popolazione, insomma, tutti fatti molto, molto significativi che invece non si vogliono vedere. Insomma. Un altro momento di difficoltà, diciamo, nel riallacciare questi fili, oltre al fatto delle tre generazioni che dicevo, nel quale ha operato solo il nemico praticamente, quindi ha reso molto più complicato il nostro lavoro di riallacciare questi fili, c'è anche il fatto, insomma, che però è una ricchezza, dipende da come questa viene vissuta, delle diversi percorsi e storie politiche dei compagni, e qui entra in ballo la memorialistica, no? Che è importante, come appunto diceva Barbara, perché dà carne e sangue alla storia, perché altrimenti è tutto, diciamo, categorie generali e non si entra nel merito. Queste storie personali sono uno schiaffo al potere perché smentiscono clamorosamente le sue ricostruzioni. Andiamo, per cui più ce ne sarà e meglio sarà, nel senso, andare a ricostruire le varie storie di tutti i compagni, sono tutte storie di lotta, dignitose, che ti dicano da dove provengano, anche dai posti più incredibili. Infatti stasera siamo qui noi tre e veniamo da tre percorsi completamente diversi. Ci siamo incontrati nel corso di questo processo rivoluzionario, approdando allo stesso punto, arrivando da posizioni completamente diverse, sia per età, sia per strato sociale da cui si proveniva, e anche per cultura forse, nel senso, voglio dire, io avevo una cultura, insomma, che parliamoci chiaro, era quello del ribelle malavitoso, insomma, per cui vengo da lontano, arrivare a quel punto lì non è stato facile, ecco perché ho voluto anche scrivere il libro, perché attraverso il racconto passaggio per passaggio si può capire come un disgraziato qualunque come me in quegli anni può arrivare a prendere una coscienza di classe e a diventare un protagonista dello scontro rivoluzionario. Questi sono i fatti e non sono solo io, perché gente con la mia storia, che con la mia provenienza, ce ne sono tanti, molti sono caduti nell'asfalto, sparati in testa dagli sbirri, insomma. E quindi compagni che sono usciti, si sono formati in carcere, sono usciti fuori, si sono uniti alle forze rivoluzionarie, hanno combattuto e ci hanno lasciato la vita, hanno fatto una scelta di vita fino a fondo, la dimostrazione concreta che in questo processo rivoluzionario, nella storia di questo paese, in quegli anni, c'è stato tanti attori, tanti protagonisti, con storie diverse, con provenienze diverse. Tutte, se andiamo a rileggerle, smentiscono in modo clamoroso quelle che sono le ricostruzioni del potere su questa storia. Quindi questo è importante, dicevo. L'altra difficoltà è che purtroppo per noi la storia delle Brigate Rosse si è conclusa in modo frastagliato, nel senso c'è stato le divisioni, ci sono state le scissioni, diciamo, a parte prima ancora c'è stata la dissociazione, insomma, che ha portato via diversi compagni. Diciamo, quindi essendosi conclusa in modo frastagliato, anche, diciamo, al nostro interno è più complicato riuscire a combattere appunto contro il potere, contro le ricostruzioni del potere, nella misura in cui anche fra di noi abbiamo letture derivate da una conclusione frastagliata, frammentata, e che quindi ha dato vita a dei percorsi diversi e quindi anche a modi di rileggere la propria storia in modo diverso. Ma questo, a mio avviso, questo è quello che penso io, questo deve essere una ricchezza, non deve essere un momento negativo. deve essere una ricchezza, nel senso bisogna avere la capacità, io personalmente nel mio libro ci ho provato, in tutti i modi, bisogna avere la capacità che tutte le posizioni, eccetto i dissociati, sono legittime, hanno diritto di essere espresse, vanno rispettate per quello che sono, perché chi le porta avanti sono compagni che ci hanno messo la vita su queste cose, non possano essere denigrate o mancate di rispetto da chi che sia. Io questo non lo posso accettare. Io in questo, nel mio piccolo, sono un compagno che riesco a avere rapporti con tutti, nel senso con tutti gli ex militanti, a parte gli associati, adesso ultimamente anche con qualcuno di questi che mi è venuto a cercare a distanza di tanti anni, e ti chiudi un occhio, nel senso tu dici vabbè, ci ha avuto, è stato un debole, nel senso non ha avuto la forza di resistere, però è comunque stato un compagno che ha dato un grosso contributo finché è stato in grado di resistere. Comunque non ha contribuito, diciamo, alla Franceschini, non è passato dall'altra parte, è diventato un narratore di questa storia del potere, perché questo è importante, nel senso se n'è stato nel suo, ha trovato la via d'uscita che è stata quella proposta dallo Stato della dissociazione, anche in mancanza da parte nostra di una capacità di trovare a nostra volta una via d'uscita di classe nostra, nel senso in questa assenza il potere ha fatto il suo gioco e gli elementi più deboli c'è chi è diventato proprio passato dall'altra parte, c'è chi invece l'ha vista come una via di fuga di uscita dal carcere. Zitto, insomma, senza fare grandi problemi, tanto che se ne è uscito. A distanza di tanti anni, anche questa differenza secondo me va tenuta conto, nel senso c'è il dissociato politico e il dissociato giudiziario, chiamiamolo così, nel senso che ha firmato la cosa in protocollo, però non si è fatto sentire, i processi non ha sparato cazzate, non ha fatto interviste sui giornali, non ha fatto, diciamo, quel lavoro sporco che fa Franceschini, che addirittura si è alleato con i dietrologi, con i Flamini, con la gente peggiore diciamo, della nostra, che racconta la nostra storia, insomma. Gente falsa fino a fondo. Io in questo approfitto di stasera per rendere una testimonianza. Flamini venne, non mi ricordo l'anno preciso, venne a Novara, non so se c'era anche Salvatore quando venne Flamini a Novara, dopo che avevano approvato la Gozzino, diciamo, venne e davanti a me, nella cella davanti alla mia a Novara, c'erano le blindate aperte, c'era Mario Moretti, lui andò da Mario Moretti, gli parlò della Gozzini e Moretti gli diceva vabbè, ma che bisogna fare per avere questa bisogna dissociarsi, nel senso no, non c'è bisogno, basta la buona condotta. Parlarono di questo, io ero lì, c'era un corridoio in mezzo e basta. Quindi io ero di qua e ho sentito tutta la discussione che c'è stata. Questo infame, quando è uscito fuori, ha rilasciato un'intervista ai giornali che diceva che anche Moretti gli aveva sollevato che effettivamente c'era delle cose cuoriarie. Cioè, ma una roba che di cui non si era assolutamente discusso. Questo per dirti chi è questo personaggio di merda, capito, che scrive i libri, che ha fatto i soldi, la carriera sulla pelle nostra. E che si permette di andare fuori approfittando del fatto che l'altro è detenuto e che non ha la possibilità di rispondere, di replicare, perché è chiuso dentro una cella. Ma vergogna, e questa è la gente con cui, questo l'ho voluto dire, cioè proprio perché ero presente e ho sentito parola per parola tutto quello che si sono detti. Hanno parlato di tutto, delle Brigate Rosse e delle varie vicissitudini. Va bene, io avrei delle cose da dire, ma può darsi sul fatto della cosa di Stati, che mi è piaciuto anche il discorso sui diritti, nel senso appunto che poi comunque è sempre stata una convinzione nostra, che i diritti non è altro che poi sanciscono su carta quelli che sono i rapporti di forza, il conflitto riesce a conquistare delle cose e loro sono costretti a mettere a norma, diciamo, queste cose qui. Tant'è vero che quando poi c'è un arretramento, abbiamo visto che sta succedendo, si sono rimangiati tutti, possono andare. Ancora più indietro di prima, quando ancora questi presunti diritti non c'erano. E insieme a questa categoria diritti, la stessa cosa penso per quanto riguarda la legalità, la violenza, sono tutte puttanate, nel senso, sono tutte categorie assurde, nel senso, la legalità, ma se ci fosse stato il rispetto della legalità noi saremmo ancora nel Medioevo, nel senso, perché tutti i processi, tutti i grandi cambiamenti sono avvenuti calpestando la legalità vigente dell'epoca storica, nel senso, in base di fatto, non ci sarebbe storia su questa lotta della legalità. E questa è un'altra battaglia che fanno forte, perché ci battono parecchio su questo fatto, la legalità, quella dei discriminati, la legalità e la non violenza, nel senso. E significa accetta questo sistema e giungiatelo fino alla fine, nel senso, perché poi il discorso è questo. Allora io finisco. Grazie Pasquale, mi è piaciuto molto il tuo intervento. Spero di poter continuare questo lavoro, appunto, vorrei fare, insomma. Ci sta facendo una poco. Sta prenotando. Intanto lascerei la parola a Luca, appunto, che interviene a nome anche del collettivo Militante, che si è da sempre occupato anche di, appunto, immaginario, costruzione di immaginario alternativo di classe. Sì, ringrazio anch'io, ringraziamo anche noi le compagne e i compagni dell'Indo di Vespe, ringraziamo anche l'editore che oggi peraltro Bordeaux Edizioni del libro di Otto, che oggi peraltro non è potuto venire qui perché aveva in contemporanea altri due eventi, quindi si è diventato Bino ma non è riuscito a diventare Trino. E, parlo io, ma potrebbero questa sera benissimo parlare per il collettivo Militant Stefano, Alessandro, Francesca e lo stesso Otto, uno è Bino pure lui, quindi insomma esprimo solo il nostro punto di vista su questo libro, che secondo noi non è un libro sugli anni 70, secondo noi è almeno in prima istanza, secondo noi è, cioè ci sarebbe una difficoltà a classificarlo in questo modo se volessimo inserirlo in una delle mensole delle librerie Feltrinelli, dove peraltro a proposito di immaginario la categoria lotta armata è diventata adesso categoria terrorismo, a onta dello stesso Gian Giacomo tra l'altro, insomma, quindi anche su queste piccole etichette bisognerebbe ragionare. Quello di Otto è un libro sul metodo, sulla metodologia. Di che? Il metodo, un metodo, poi non è detto che sia l'unico, probabilmente non è l'unico, il metodo per studiare gli anni 70, cioè il grande rimosso della storia italiana, abbiamo detto, anche questa sera. In un'epoca di revisionismi si potrebbe pensare che l'infamia e l'antiscientificità con cui questo periodo è stato analizzato, quando è stato analizzato, siano riconducibili alla volontà di riscrivere la storia, soprattutto rispetto a quei capitoli di protagonismo popolare, proletario e di vittorie dei subalterni che chiaramente danno fastidio. Però noi, nello specifico degli anni 70, crediamo che non sia un problema di revisionismo. Proprio Salvatore Ricciardi lo scrisse in un suo lavoro ben noto. Non si può parlare per il periodo 1970-80 di revisionismo, non si può parlare tecnicamente di revisionismo, perché non si può riscrivere quello che non è stato mai scritto, semplicemente. E la narrazione ufficiale di regime si è ben guardata dal trattare l'argomento in questione con l'evidente volontà di esorcizzare il rischio, anche minimo, di una sua riproposizione. Paura veramente ridicola, secondo noi, perché sottintende l'idea che come se i rapporti materiali tra le classi fossero influenzati dai topic trend o dagli hashtag di moda, insomma, ecco, non funziona così in realtà. Però oggettivamente c'è questa aporia, e questa aporia mette in difficoltà non solo i compagni, no? Appunto i proletari di oggi che non conoscono quella storia, non la possono conoscere, insomma, appunto diceva Pasquale, incominciamo adesso a poterla conoscere, però tecnicamente questa aporia mette in difficoltà anche gli studiosi, quelli che intendono approcciarsi all'argomento, magari anche senza avere nessuna finalità politica, insomma, no? Solo, diciamo, di studio. E quindi la domanda è proprio questa: ma come si studia come si studiano gli anni 70, no? Come si studiano gli anni della rivolta. E qui subentra Otto, il nostro autore di questa sera, anche il nostro compagno, che non è peraltro la prima fatica letteraria, e nel suo lavoro ha scelto un metodo lineare, estremamente lineare, a cui secondo noi è giunto però attraverso una serie di passaggi molto ragionati, attraverso una precisa, si può dire, anche proprio epistemologia, cioè non è arrivato a questo metodo per approssimazioni, non ci è arrivato per contrarietà, come direbbe il poeta. Questo perché la lotta armata negli anni 70 italiani, è stato detto anche questa sera per fortuna, non è stata una parentesi, frutto di impazzimento di pochi o di tanti, ma non è stata neanche una monade della storia, impermeabile alle dinamiche sociali, come un meteorite, appunto, no? Che provenisse dallo spazio. È stata il frutto di condizioni oggettive definite dai rapporti materiali e dalle relazioni tra le classi. Le stesse relazioni tra le classi che ci dicevano che in un periodo probabilmente riconducibile all'inizio alla fine degli anni 50, per non parlare poi della questione della resistenza tradita, della guerra civile, in quel periodo si sia formata in questo paese una concreta alternativa di potere che ha tentato di suggellare in una maniera diversa la contraddizione tra proletariato e borghesia, grazie all'impegno di chi, e qui faccio una citazione, aveva preso maledettamente sul serio la rivoluzione. Questo è quanto, ci dice Otto. Sembra tutto molto semplice, seguendo questa chiave di interpretazione. Questa è la storia, che in fondo è una storia semplice da questo punto di vista. E allora la domanda è: come la raccontiamo? E Otto, con questo lavoro, lo fa scegliendo i testimoni. Sceglie chi è stato sconfitto, tecnicamente, ma è stato vivo, politicamente, dentro il movimento di classe. Chi è stato sconfitto, ma è tra l'altro ancora vivo, biograficamente, insomma, per fortuna, no? Nel senso che poi c'è anche questo aspetto. E qui, da qui deriva un percorso fatto di storie, che non è però un percorso fatto di individui, ma è un percorso fatto di nomi, e qui c'è Pasquale che l'ha già scritto questa cosa, nomi di compagni, ma anche nomi di nemici, che sono importanti esattamente come i nomi dei compagni. E in Correvo pensando ad Anna, il titolo non era ancora uscito questa sera, il recente bellissimo libro di Pasquale, questo passaggio c'è tutto, l'altro libro è presente anche questa sera. Nella sua premessa Otto a un certo punto scrive una frase che secondo noi va sottolineata: la ricostruzione di individui sociali non è un problema del futuro, ma riguarda l'oggi, nella trasformazione del mondo oggettivo. Cioè, tra i tanti problemi che ci abbiamo noi oggi, sono tanti, veramente tanti, c'è anche il fatto che dobbiamo resettarci e passare di nuovo dall'individuo individuale, permettetemi questa forzatura lessicale, all'individuo sociale. E come si torna all'individuo sociale? Attraverso la storia come sapere di classe e anche attraverso la rottura della storia come formazione ideologica della borghesia, che è quello che abbiamo detto anche questa sera, hanno detto i nostri relatori, i nostri compagni, ricordandoci anche che la storia, quella con la S maiuscola maledetta, e le storie, che sono quelle invece nostre di questa sera, sono collegate all'organizzazione sociale delle forze che partecipano e determinano il corso degli eventi. E le stesse storie delle organizzazioni combattenti, soprattutto delle organizzazioni combattenti, sono le storie dei militanti che in esse hanno combattuto. E qui chi mi ha preceduto in questa serata nel parlare, chi poi mi seguirà, ha avuto delle storie importanti, non sono state storie uniche, lo hanno detto proprio loro, sono state quindi storie generalizzabili e storie generalizzate. E chi mi ha parlato, chi è adesso al mio fianco, fianco del sottoscritto, che si fa quindi inevitabilmente piccino piccino di fronte a questi compagni e che fa parte di un collettivo che si firma in minuscolo di fronte a questi compagni, perché questi compagni con le loro storie rappresentano la storia degli anni 70 e di quella parte della classe che ha prodotto un'offensiva rivoluzionaria, le storie di questi compagni sono le storie del, tra virgolette, delinquente politicizzato, con questa espressione Pasquale inizia il suo lavoro, la storia dell'edile, del ferroviere, del delegato sindacale, dell'animatore delle lotte nelle carceri, degli animatori delle lotte nelle carceri, la storia della combattente che vuole che il femminile sia proprio di un potere sempre declinato al maschile, perché c'è anche questo aspetto, e che quindi in quanto tale sconvolge non una ma due volte l'ordine costituito, in quanto rivoluzionaria e in quanto rivoluzionaria donna. Dunque qualcosa di doppiamente inaccettabile per la declinazione, no, patriarcale del potere. Elisabetta, insomma, ha lungo lavorato su questa cosa. Barbara, compagna Balzerani, ha detto che giustamente ha detto che non si tratta di perdonare, si tratta di storicizzare. Lo scrisse peraltro in Lascia che il mare entri, uno dei suoi lavori, forse insomma penultimo mi sembra, quando si parlò di una genealogia privata di un sentore comune, che poi è la stessa cosa che stiamo dicendo questa sera, insomma, no? Le varie esperienze importanti certamente ma non esaustive, le forme e le esperienze di quella che è una guerra finita, ce l'hanno detto anche questa sera i compagni, ma che nonostante sia finita è continuamente evocata, mai come adesso, mai come a 40 anni dal 78, l'anus horribilis della borghesia italiana. Questo accade perché la storia, Otto ce l'ho ricordato, è anche una merce, non da oggi peraltro, perché non c'è l'obiettività storica, e abbiamo capito il perché, speriamo ci possa, cioè, con questi lavori incominciare ad esserci, e perché la parte vincente si è autoattribuita la ragione, e vabbè ci sta, hanno vinto, il diritto anche di decidere l'innocenza e di decidere anche l'amnistia, perché poi no, bisognerebbe anche aprire le gabbie, insomma, una volta per tutte. E un autore che peraltro non è che amiamo particolarmente, Foucault, lo scrisse che la borghesia, più che negare il sapere, plasma il suo di sapere, insomma, no? Quindi in questo suo sapere il ruolo svolto dalle organizzazioni combattenti non può essere un ruolo gratificante, chiaramente. Io la finirei qui solamente con tre parole, veramente tre, quattro parole che butterei anche magari come, cioè, per un dibattito, insomma, ecco, se non è troppo tardi, e che secondo me stanno in tutti i lavori, non solo in quello di Otto di cui parliamo questa sera, ma nei lavori delle compagne che hanno messo su carta, insomma, le loro esperienze. Queste parole sono identità, sia adesione ad una dimensione, nel caso delle compagne e dei compagni, rivoluzionaria, ma anche identità nella repressione subita. Qui c'è un passaggio importante nell'intervista di Salvatore, che dice a un certo punto una frase secca, molto vera, a proposito del fatto che le carceri di ieri, che erano oggettivamente meno attenti ai diritti della popolazione carceraria, così facciamo arrabbiare Salvatore, cioè erano oggettivamente meno attente rispetto a quelle di oggi, no? Che almeno formalmente lo sono di più, insomma, no? Quindi, eppure quelle carceri di ieri presentavano un tasso di suicidi incredibilmente inferiore rispetto alle carceri di oggi. E Salvatore dice: oggi, anche se hai la tendina rosa, simbolicamente, non hai speranza dentro il carcere, insomma, no? Perché dentro il carcere tu sei un carcerato, e quando esci sei un ex carcerato. Prima entravi in un posto lurido, forse più lurido di quelli, insomma, attuali, ma trovavi persone, individui, compagni, non necessariamente compagni che dentro il carcere ti aiutavano a elaborare il carcere e a farti capire, se già non lo sapevi, che quel mostro era l'essenza dello sfruttamento capitalista, forse diciamo la macchina perfetta dello sfruttamento capitalista. Quindi identità è la prima parola, l'altra parola è, le altre parole sono memoria di classe, l'altra parola è immaginario, l'altra parola è egemonia culturale, sono tutte collegate chiaramente, l'ultima parola su cui, ecco, dovremmo riflettere è consenso, perché anche questo Salvatore, non solo lui, l'ha detto, consenso che c'era in quegli anni ma che non sempre si è tradotto in partecipazione, perché sono due livelli diversi. Ci fosse stata forse più partecipazione, ecco, staremmo a raccontare un'altra storia magari. Grazie. Grazie Luca. A questo punto tocca a te Salvatore e direi che a questo punto mi dovrai aiutare a rispondere anche ai punti che Luca ha voluto mettere sul piatto, insomma. Vabbè, dunque no, io a me interessa partire, no? Preso atto tutto il discorso che ha fatto Barbara, quindi della falsificazione, cioè poi ci entriamo per due piccoli spunti. Invece la parte è molto positiva, non per come è finita sta storia, per come la raccontano, ma per quello che per uno io ho cercato di esprimere, non ci sono riuscito di esprimerlo in questa intervista, così come l'altro libro. Quello che ho trovato io quando ho cominciato a lavorare, appunto, i primi anni 60, prima in edilizia e poi in ferrovia. Perché, a parte che ho imparato tutto, io i libri classici li ho letti molto dopo, quando già avevo fatto una scelta, a verificare se quei libri corrispondevano alla scelta che avevo fatto e mi davano qualche elemento in più oppure no. Non è che vengo dall'università, io venivo dal cantiere e poi dal... Ma la cosa bella è che io ovviamente ho incontrato delle persone, operai in edilizia, che perché durante le lotte e poi in ferrovia, che avevano, cioè, qualcosa di più di quello che sentivo raccontare anche nel Partito Comunista di quella che era la classe operaia. Cioè io ho scoperto qualcosa di molto più profondo, intenso e umanamente forte, che veramente ti faceva dire: ma con questa gente si può veramente cambiare, si può fare la rivoluzione, si può veramente cambiare. Cioè il fatto che ho accennato nell'intervista il fatto della legalità, io non ho fatto studi della legalità, casomai l'ho fatti dopo, però quando mi hanno raccontato alla Parco Prenestino, che sta sì su via del Parco, sapete, era un grosso a San Lorenzo, no? Era il grosso posto dove qui non so cosa perché è ferroviario come me, dove riparavano quando era tutto dei ferrovie, poi è stato esternalizzato, spezzettato, che non è più così, apparentemente adesso è deserto, però c'erano dei capannoni dove riparavano le locomotive. Quindi ci lavorava un sacco di gente, c'erano dei piazzali grossi dove potevamo fare, dove facevamo le assemblee, quelle grosse, anche col sindacato. E poi quelli mi raccontarono, ma tranquillamente, dei compagni del PC erano, che appunto, poiché allora la situazione, diciamo, pensionistica era un po' travagliata, nel senso che se una persona, se un lavoratore moriva, non per incidente sul lavoro, ma moriva, la pensione di reversibilità alla moglie, che in genere era casalinga, questa era la realtà degli anni 50 e primi 60, prendeva una cifra bassissima. E a me è successo perché mio padre è morto quando avevo 17 anni, mia madre era casalinga, la pensione di reversibilità era un disastro, a posto ho cominciato a lavorare subito, molto bassa. E allora questi lavoratori, questi ferrovieri del PC, il Partito Comunista, prendevano questo lavoratore che era morto di infarto o di altre malattie, che allora era di malattia, lo prendevano di notte, lo portavano al Parco Prenestino, l'attaccavano alla 3000 volts, cioè la 3000 volts è l'elettricità che fa viaggiare i treni in Italia, quindi diventava un carboncino, dicevano è morto in incidente, e a quel punto la vedova gli dava un sacco di soldi. Cioè, questa e su questo, tra l'altro, mi pare se un come dicevo, c'è fatto anche un pezzo teatrale, ma parlo degli anni 60 perché era appena successo. Un pezzo teatrale molto bello, allora come diceva Barbara si potevano fare queste cose. Chi ce l'ha fatto il pezzo teatrale? Non mi ricordo chi è, però... ok, pensavo avessi detto un nome. No, cioè non me lo ricordo, ma lo so, ce l'ho scritto da qualche parte. Okay. Ed era molto bello perché, nel senso, questa cosa qui veniva raccontata senza quel paura, oddio abbiamo rimesso, cioè poi... Io capì con i miei strumenti, ne ho fatto istituto tecnico, non è che avevo fatto, che c'erano veramente due legalità, c'erano veramente due mondi, c'erano veramente due modi di interpretare qualunque fatto che succedeva, due punti di vista dai quali vedevi in maniera molto diversa, se non opposta dagli altri, i fatti che succedevano, quindi dall'incidente sul lavoro, dalla condizione lavorativa. Cioè questa esperienza che appunto ho visto sia in cantiere che in ferrovia, è quella che mi ha dato a me la carica di dire vabbè, ma siamo questi, a parte sentivo un'attrazione umana molto forte con queste persone, perché erano grandissime, no? E poi la cosa fondamentale, cioè a me quella cosa che si è persa completamente, però io quando ho conosciuto il sindacato, stavo in ferrovia, avevo avuto dei problemi col caporeparto, normale, io sono spirito un po' così, casinaro, diciamo, no, non ancora il bene, però casinaro sì. Allora andai dal sindacalista e pensavo che gli avrei dovuto raccontare tutta la storia in particolare. Però mi disse: noi stiamo dalla tua parte. Hai sbagliato. Noi stiamo dalla tua parte. Questo è il sindacato. Questo però era il 63, 1963. Noi stiamo dalla tua parte, non si discute. Noi stiamo dalla tua parte e ti difendiamo. Non ha importanza se anche hai strangolato il caporeparto, gli hai sputato in faccia, c'hai tutti i torti. Noi stiamo. Quella cosa lì è il sindacato. E io l'ho conosciuto così il sindacato e ho cominciato a fare il sindacalista in quel modo. Io dicevo la stessa cosa quando andavo in giro a fare le tessere, quando andavo in giro a fare. Cioè, è chiaro che guardi, con quel tipo di rapporto lì, no? Con quelle persone che conosci, tu dici, vabbè, qui facciamo la rivoluzione. Non è che l'ho letto sui libri, l'ho letto sulla faccia della gente. Perché già con queste due impostazioni, appunto, un concetto sulla legalità, un concetto sull'ordine completamente diverso, è un problema di dire io sto dalla tua parte. Cioè quello che dicevano sia Ottone che Barbara. Se vogliamo raccontare la storia bene, dobbiamo farla di parte, perché perché è così la realtà divisa in classi. Le organizzazioni, diciamo, proletarie, no, per dire, dovrebbero dire sto dalla tua parte, non mi interessa, perché tu sei della mia parte, siamo della stessa parte, non è un problema che vada a cercare, no, però la legge, il regolamento, tu hai infranti il regolamento. Cioè oggi è così, no, non voglio dire questa cosa, ne vorranno male i compagni e le compagne di sindacati di base, ma oggi anche i sindacati di base ti fanno questo discorso, anche i sindacati di base ti dicono ma però il regolamento qui, cioè è successo il fatto al Polichini, non so se c'è qualcuno di suoi ieri, no? Peppe del Polichini, un compagno storico vecchio, perché è intervenuto, ha detto una cosa in una intervista di un giornalista fuori dell'ora di lavoro, alle 2 e qualche minuto, lui lavorava fino alle 2, e aveva detto delle cose criticando l'azienda ospedaliera. L'hanno messo in cosa disciplinare, la stessa cosa hanno fatto allo Spallanzani, cioè in ferrovia l'hanno licenziato, cosa? Cioè siamo all'assurdità, intanto perché anche il sistema borghese, il capitalismo che viene dal mercantilismo, si basa sul contratto, è il contratto, no? Le due parti che ipoteticamente stanno sullo stesso piano, venditore e compratore, il mercantilismo era così, scambiano quella merce in cambio di denaro o altre cose. Poi il capitalismo prende questo, la sussume e va ancora più avanti, però sempre basata sullo scambio. Quindi il problema è che c'è al centro, c'è appunto un meccanismo per cui tu dici, vabbè, io accetto questa cosa, l'ho firmata, c'è un contratto, una contrattazione firmata, quindi io pretendo che questa cosa venga rispettata. Da lì anche... mi è stata messa subito la pulce nell'orecchio che il concetto del diritto, io questo pezzo che sta in coda a questo libro l'ho scritto a dicembre dell'anno scorso, 6 mesi fa, però questa pulce mi era entrata da loro in testa, perché loro dicevano guarda che il diritto è una parola che riguarda un problema contrattuale, due che contrattano, quel contratto lì stabilisce i doveri e i diritti di uno e dell'altro, e quindi il diritto è quella cosa lì, cioè rispettare quel contratto è un diritto, per cui infatti i lavoratori oggi dicono vogliamo i diritti perché il padrone ruba sulla busta paga, allora quello dice siccome tu hai firmato quel contratto quei soldi mi devi dare perché rubi, però assumerlo a concetto fondamentale, dire io voglio il diritto significa che io voglio rimanere in questa situazione. Quello mi avevano spiegato a me, mi avevano spiegato gli operai delle ferrovie e anche qualche lavoratore dell'edile, Carucci, in questa. Perché dice, il problema del diritto è una situazione di accettazione del presente. Se tu accetti la contrattazione in cui c'è già una falsità, perché il contratto presuppone due persone sullo stesso piano, no? Uguale. Allora, tra padrone e operaio sì. Presume che ci sia parità, così tra giudice e accusato si presume che ci sia la legge uguale per tutti, l'imputato deve collaborare col giudice per stabilire la verità del caso. Queste sono le terminologie su cui oggi sono tutti d'accordo, bisogna dirlo, anche se me la hanno, perché poi anche molti compagni e compagne sono d'accordo, ma non per colpa loro, perché il massacro dei 40 anni alla fine dei frutti l'ha sortiti, questi hanno detto ecco, allora bisogna ricominciare a ritessere la cosa, come si fa non lo so, perché non lo sa nessuno è profeta, però qui l'intelligenza, la creatività, l'attività delle compagne e dei compagni troveranno il modo, perché se trova il modo non è finita la storia. E qui ritorniamo un attimo al discorso, no? Io questo discorso, Barbara diceva qui, hanno detto tante di quelle cazzate nel 40° anniversario, Dante è troppo poco, ben più di Dante. Io non l'ho sentito perché poi uno c'ha un livello allo stomaco, di limiti, no? Però a un certo punto nei giornali radio che indicavano queste cose è venuto fuori che lo vogliono quasi santificare il signor Moreo. Allora, nessuno si ricorda, ma è grave, nessuno si ricorda che c'è stata in Italia una certa legge reale, qualcuno sa, noi tra i compagni sappiamo, la legge reale era quella che dava alla polizia di sparare ai vostri blocchi se non ti fermi ti sparo. Secondo alcune organizzazioni umanitarie, quindi non rivoluzionarie, ma manco dei compagni, dicono che sono stati circa 900 morti durante l'attuazione della legge reale, poi è finita, è stata inserita nelle altre dinamiche. È Oronzo Reale, è il Ministero della Giustizia di un governo particolare. Quel governo era Moro La Malfa, iniziato nel 74 fino al 76. Il governo Moro La Malfa non ha fatto solo la legge reale, perché il ministro della giustizia Oronzo Reale l'ha nominato il signor Moro, ora sarà pure santo, quindi lo so che sarà passato, però la legge reale è una legge reale, e se qualcuno non se lo ricorda perché sono state cancellate, però qualcuno non giovane si ricorda che in tutte le strade di Roma, Roma perché abita a Roma, sicuramente a Milano, a Torino, a Bologna, dovunque, e le muri della città erano piene di scritte contro questo governo qui, anche perché quel governo lì era stato uno spostamento a destra anche rispetto ai governi di centrosinistra precedenti, che non erano granché, però pensavano di cavalcare e gestire il movimento che stava sorgendo dal 68-71, la crisi del 73, cercavano di, diciamo, gestirla in maniera ancora così, concedendo qualcosa. Poi ci fu la crisi del 73 e quindi cambia completamente scena. Per cambiare scena chiamano il più reazionario, che era Ugo La Malfa, che propose la pena di morte. Per fortuna è nella Costituzione, quindi ci devono fare quel travaglio, avete visto quanto è complicato cambiare una norma della Costituzione, devi fare prima votazione, referendum, la seconda votazione, non c'è, ma lui aveva proposto la legge, la pena di morte. Ha chiesto che Oronzo Reale venisse messa alla giustizia, Moro l'ha firmata, la legge reale è stata firmata a sinistra da Oronzo Reale, a destra da Aldo Moro, perché il Presidente del Consiglio firma tutte le leggi che quel governo emette. Allora, e poi non diciamo, dal 74 cominciano gli attacchi ai picchetti, il picchetto davanti alla fabbrica, quando c'è sciopero, il picchetto, no? Non fa entrare il comiro, è una cosa che non è stata mai regolata da nessuna cosa, dipende da quella, proprio è chiarissima che conta il rapporto di forza, perché non c'è nessuna legge che regola il picchetto. A volte è stato illegale, oggi di nuovo è illegale, perlomeno quando l'abbiamo fatto davanti alla logistica è venuta la polizia, ha detto non si poteva fare quando abbiamo fermato i camion, perché non si può fare. Vabbè. Allora era diventato legale, dopo il 69, con quel po' che è successo, è diventato, era fattibile, la polizia stava da una parte, zio. Con il 74 la polizia carica e le persone che vengono prese nel picchetto vengono accusate di sequestro di persona, perché se tu metti la mano sul petto a uno che può entrare, che è il crumiro, quello si chiama sequestro, se impedisci il movimento a una persona che può andare a lavorare si chiama sequestro di persona, che sono anni di galera, è un'accusa molto pesante. Questo per dire, ma non voglio continuare poi appunto i muri di Roma, se qualcuno va a ritrovare le fotografie, ci saranno da qualche parte le fotografie degli anni 70, dei primi anni 70, nelle città, e le scritte sono esplicitive, chiarissime, se le sono scordate tutte, per carità, evidentemente hanno un problema di memoria i nostri concittadini, è un problema loro, ci stanno i neurologi, che danno pure dei pazienti, però veramente si sono scordate tutto. Vabbè, questo vede, però a me mi interessa un'altra cosa, volevo dire, perché è questo, per sottolineare quello che diceva Barbara sulla falsità, io sono stato arrestato nel maggio dell'80, una bella giornata di sole, triste andare in galera, come dice De André, e morire di maggio. Anche andare in galera di maggio con la pena così, però a parte le battute. Allora, io ero entrato in ferrovia. Due furbi. Ah, ho fatto lì apposta, ci hanno preso. Insomma, la cosa bella è che quando ero sull'unità, poi l'ho letta qualche giorno dopo in carcere, perché in primi tempi stai in isolamento, l'unità me l'avevano conservata, i compagni diceva che ero stato appunto arrestato in ferroviario, anche delegato, eccetera, infiltrato nelle ferrovie. Allora, io sono entrato nel 63, ma anche se poi avessi... La talpa che avevo previsto nel 63, che sarebbe successo tutto quel barrione, che manco Gesù Cristo, se fosse reale, vissuto, avrebbe scoperto la cosa di genere. Questo per dire che arrivano a livelli che io dico, ma quelli che leggono l'idea non si mettono a ridere, dicono, no, non si mettono a ridere. Comunque, però poi, ecco, anche per metterci un numero, non è stato detto fino adesso, allora, gli inquisiti per l'autonoma sono stati 10.000, di cui 4.000 sono passati dalla galera. Numeri che non sono proprio dei quattro pazzi, sono numeretti grossi. Anche riferimento alla resistenza. Esatto, che secondo alcuni storici è superiore alle persone inquisite arrestate per la resistenza. Tullia, non è indifferenza. Sono dati che fanno pensare. Questo, però io volevo prendere lo spunto da quello che diceva, perché poi veramente, ma a parte tanto lo sappiamo che la storia sono i vincitori, hanno vinto, hanno scritto un sacco di cazzate, continuano a dirle, vabbè, e questo lo sappiamo. Però io volevo entrare invece in quello che ci aspetta a noi, no? E come diceva Barba, questa ondata di falsificazione ci costringe ad arroccarci un po', no? Invece sarebbe bello cominciare, ed è opportuno cominciare a dire qualcosa per parlare tra di noi, no? Non solo per fare argine a quelle cazzate che dicono loro, ma per cominciare a dire. Per esempio, secondo me il termine lotta armata, anche come lo usiamo noi, noi compagni e compagne, è abbastanza, è troppo generico. E qui sarebbe importante cominciare un dibattito che non cominciamo qui, però teniamolo presente e ci si. Allora, la lotta armata che in quegli anni hanno fatto tutti, diceva la passata del 267, cioè, anche i collettivi, cioè armate, esatto, i collettivi andavano in una direzione fascista e sparavano, bruciavano, facevano quello che devono fare. Il collettivo dei Battisti, come si chiamava? Quelli di Barona. I PAC? I PAC hanno fatto 4 morti, quindi non è uno scherzo, più altri feriti, quindi, erano collettivi, non c'era una struttura. Allora, il problema della lotta armata, intanto bisognerebbe distinguerlo in due fasi. In periodi molto, due impostazioni teoriche poi, in periodi di tumulti, di cose, le azioni cosiddette violente o armate si diffondono, e così è successo. Però ci sono due impostazioni con cui chi le fa le ragiona. Una è quella di darsi come impianto strategico, cioè la lotta armata come punto, come percorso, non ha importanza il numero, è un percorso che va in maniera armata a distruggere l'assetto statale, utilizzando tutti i movimenti che si muovono, eccetera, cioè collaborando e anche dando un'indicazione, no? Noi diciamo sulle risoluzioni strategiche, noi dobbiamo tracciare la strada ai movimenti, non prenderli per la collottola, ma tracciare la strada in modo. Questa è un'impostazione strategica che presuppone un'organizzazione. L'altra lotta armata, che pure è altrettanto armata perché fa morti, che ha fatto, quella che è successa lì, e sono tante, io ne dico solo due, ma probabilmente stanno anche andando, anzi se andiamo ad analizzare dettagliatamente, questo è il lavoro vostro, gli storici, perché noi ormai siamo stati vecchi, ci riposiamo, però andando a vedere tutte le 276 sigle, quelle che so, che hanno fatto lotta armata, che impostazione davano? Vabbè, c'è il braccio armato, che lo sappiamo, viene dalla terza internazionale, eccetera. Ci stanno quelli che lo fanno, ogni tanto fanno cosa, però prevalentemente fanno il lavoro di massa, e così via. La nostra è un'impostazione strategica che vedeva un'organizzazione che puntava a portare avanti quella indicazione come elemento di punta di un movimento che avrebbe dovuto tracciare quella strada. Ecco, questa cosa per esempio non se ne è potuta, sono passati 40 anni, non se ne è potuta parlare tranquillamente perché abbiamo dovuto fare argine, e quelli dicevano c'è la CIA, il Mossad, e poi gli infiltrati, cioè. Ecco, però invece dovremmo recuperare, perché noi poi quello che raccontiamo, a parte facciamo anche il passatempo, perché, a parte scherzo, no, invece è che per fornire questo materiale a chi, a voi che dovete fare quello che dovete fare, insomma, che deciderete di fare. Deciderete voi, però appunto utilizzassi strumenti, però in maniera un po' più articolata, un po' più dettagliata, ma lo possiamo fare se lasciamo fuori dalla porta le cazzate, il quarantesimo, cioè il cinquantesimo, intanto non l'accetteranno mai quello, che cosa? Non accetteranno mai che delle ragazze e dei ragazzi di strada, come voi, no? Tranquillamente, a un certo punto si sono messi insieme, e hanno messo in discussione lo Stato, la società del capitale, il sistema, il modo di produzione capitalistico, perché ha parlato un po', l'ha scritto Agnelli quando disse questa cosa qui, cioè quei livelli di sabotaggio, di scontro, di lotte, di attacco ai capi reparto. Lui disse, Agnelli scrisse su quel libricino che ha scritto lui, che i capi reparto vengono da me a lamentarsi perché non possono entrare nei reparti. i reparti di cui loro sono capi, non posso entrare perché gli facevano capite gli facevano questa cosa si mette in discussione non solo lo stato, l'apparato repressivo, ma il modo di produzione capitalistico, e quello è un percorso. Ecco, si tratterebbe di ragionare, ma non perché c'è una verità che noi no, anzi io sono aperto a tutte queste cose e dico, e non lo so, però se noi mettiamo, non so quale sceglierete voi giovani quando deciderete di fare, tanto la violenza ci sta comunque, perché i 3 morti al giorno in fabbrica, cioè sul lavoro, mi pare che non è violenza quella, o no? 1000 morti l'anno, insomma, più di 3 morti al giorno, quindi quella è violenza, no? O no? Più di quanti abbiamo fatto noi in 10 anni, questi in un anno, e fanno. Però quindi la violenza ci sta, cioè dobbiamo fare i conti, pure su quello parliamo. Cioè. Il problema però, se uno immagina di usarla, si tratta di ragionare come, ma non sul piano etico-morale, perché la Chiesa dice no, quell'altro dice no, no, sul piano proprio fattuale, data una situazione, un livello di scontro di classe, quale conviene usare per fare un passo avanti, per andare verso quel discorso che vogliamo andare. Quindi questo ci manca. Non abbiamo ancora fatto questa riflessione che dovremmo fare sui vari modi con cui in quegli anni è stata interferita la lotta armata. Perché quindi la lotta armata è un po' di niente. Cioè, che vuol dire? Che uno spara, tu sparano tutti, che cazzo, in America sparano tutti, ma non c'è la lotta armata, no? Il problema è che perché è la specificità nostra, a differenza del 267 sigle, era, ma non per rivendicare e dire che è giusto, non è questo il problema, era diversa, era un'impostazione strategica, non che facciamo più azioni degli altri, anzi no, secondo me ne facciamo molte di meno, per esempio rispetto a prima linea molte di meno, no? Che è nata molto dopo, e anche altri gruppi, ma perché era un'impostazione strategica, che quindi significava che tu andavi, non che ammazzavi quegli antipatici, per esempio è tipica, è abbastanza chiara che quando i compagni a Padova fecero un'azione in una serie fasciste e morirono 2 fascisti, i compagni, il resto dei compagni e dei compagni dell'organizzazione dissero che era stato un errore, ma non perché è sbagliato un massacro fascisti, figurati, fa parte del. Però perché non era un aspetto strategico, il fascismo non era un momento strategico in quella parte, non era il pericolo principale della classe operaia, il pericolo principale della classe operaia era quello su cui poi abbiamo lavorato per il resto di 10 anni, era quello della cattura del movimento operaio attraverso il Partito Comunista e la CGIL e portarla dentro al sistema. Era quella, ma non solo quella, hanno scoperto tutti i movimenti, hanno scoperto un po' tardi che quello era l'obiettivo principale, quindi il compromesso storico, la cattura del PC, attraverso il PC tutto il movimento operaio è diventato il sistema. Considerate che in Italia i proprietari italiani sono quelli che sono più proprietari di case di tutto il mondo capitalistico. In Italia i proprietari italiani, proprietari come noi, sono proprietari di case. Perché? Che è successo? È successo che il Partito Comunista, per costruire quell'inserimento dentro il sistema, ha fatto sì che con un rapporto a 3 banche, che erano quelle che fornivano i mutui, il pubblico che prendeva la 685, mi pare si chiama, la legge che permetteva di sequestrare, di comprare a poco prezzo i terreni fabbricabili e farci lavorare delle cooperative che costruivano queste case per lavoratori, e i palazzinari, cioè queste cooperative che poi erano imprese. Questa rapporta 3, con beneficio del Partito Comunista e del sindacato che nei posti di lavoro, io me lo ricordo perché Ferrovia ci fu la guerra tra ferrovieri, quando è stata, dai, diventiamo tutti proprietari, e lì ti incazzai e dici, appunto, stronzo, stava a fare la rivoluzione, dopo diventare proprietari, non ci siamo capiti, però in effetti, per esempio a Montesacro, il villaggio Angelini era fatto tutto da ferrovieri, era il settore di classe più a sinistra, quelli che a me hanno insegnato queste cose, per me bellissime, e però poi sono stati catturati. Tra il lavoro del sindacato, nel frattempo erano passati 20 anni, cioè il lavoro del sindacato del PC li ha corrotti a tal punto che sono diventati proprietari di casa. Che è significato? Con tutte le ricadute, il proprietario di casa dice lo zingaro viene a rubare, quindi guardie e carcere, immigrato ruba pure, alziamo la pena per gli immigrati, chiede la militarizzazione perché vuole essere difendersi la proprietà, comincia a avere una visione ristretta della propria. Non è più disponibile a mettere insieme le cose, quindi a inventarsi anche cazzate come le comuni, cazzate che però anche quelle alludevano a un'altra società che negli anni 70 sono state fatte, appunto, erano cose anche buttate là, però era il tentativo da parte della generazione giovanile di mettere in discussione gli assetti anche sociali, non solo politici, anche sociali di quel tipo. Distrugge la famiglia, cioè tutte queste cose qui, no? Cioè, rendere libero il rapporto tra le persone. Questa cosa, e quindi quella cosa quindi, sarebbe interessante discutere di questo. Io volevo dire un'ultima cosa. Allora, il problema del sistema, abbiamo verificato questa cosa pure molto importante. Su questo pure ci stanno tante discussioni molto interessanti, però su questa pure non lo so, però io non è che partecipo a tutti i dibattiti, i convegni, io non ho sentito ancora una discussione approfondita su questa cosa qui, però non ci ho partecipato. Quella di dire come mai il sistema capitalistico recupera, cioè quando batte una situazione conflittuale o antagonista, poi recupera alcuni elementi di questa attraverso la corruzione, ognuno ha detto un po' la sua. Allora, io ho l'esperienza che è attraverso per esempio la catena di montaggio, no? La catena di montaggio non è che è finita perché a un certo punto gli imprenditori capitali hanno capito che era meglio altre cose, è stata distrutta dalla classe operaia. La catena di montaggio è una cosa terribile, l'avete raccontata chi c'è stato, cioè è una cosa allucinante, intanto perché ti aumentavano i ritmi sempre di più, tu eri diventato uno schiavo della macchina, eri in balia di non poter controllare niente, mentre l'operaio specializzato che faceva il suo lavoro particolare poteva rallentare, fermarsi a fare una sigaretta, e la catena di montaggio manco accesso potevi andare, dovevi premere un pulsante e quando ti chiamavano veniva. Che anche adesso. Anche adesso, di Cassinova ed eventuali colleghe e compagni che ci lavorano solo tramite la produzione. Sì, certo. L'hanno riciclata. Infatti io volevo dire, quella catena di montaggio, quella che abbiamo visto nei film, no? C'è anche Shelby Chaplin, cioè quello per dire anche l'egemonia della critica a quel sistema capitalistico di allora, è stato talmente forte, il tema dell'egemonia me l'ha tirato fuori Luca, del fatto che le lotte della classe operaia hanno anche espresso un'egemonia culturale, perché gente come Charlie Chaplin, che era un grande intellettuale, ha fatto il film contro la catena di montaggio, e non è un grande film, ma poi ce ne sono stati anche tanti altri. Quindi il fatto che quando un livello alto della lotta di classe, della lotta degli operai, riesce a raccogliere interesse, a fare egemonia culturale, perché per esempio i Fortini, i Pasolini, ma tantissimi intellettuali che erano già bravi per conto loro, forse si sarebbero arrivati da soli, però secondo me hanno anche avuto l'agio di avere un movimento che gli aiutava a trovare la critica sostanziale al sistema attuale. Ecco, la catena di montaggio è stata distrutta dagli operai. Quella rabbia contro la catena di montaggio è rimasta lì, o si è trasformata a rabbia contro il sistema, il modo di produzione capitalistico che aveva prodotto la catena di montaggio? Domanda. Ovviamente la storia ci insegna che è rimasta lì, perché il padrone, intatto nel suo potere, il padrone, il capitalismo, chiamato come fare, ha dovuto mettere via la catena di montaggio perché non funzionava più. Non è che il post-fordismo l'ha inventato qualche super teorico, gli è stato messo in non si lavora più perché sennò ci stanno sciopero un giorno sì e l'altro pure. Quindi ha dovuto inventare altre cose e ha inventato il precariato, ha messo in moto altro, ha riscomposto la lavorazione in altri modi, inventandosi altre cose. Cioè ha dovuto riciclarsi perché la classe operaia non gli permetteva più di fare quel sistema lì. E come diceva la compagna, oggi i sistemi di lavoro su quello che fa Amazon, quello che fanno tutti gli spedizionieri, è ancora più feroce, ma non c'ha il meccanismo della catena di montaggio. È sempre, cioè è il ribadimento del potere sul lavoro che c'è il capitale e che realizza la tecnologia e anche la scienza, secondo me, in grado di utilizzare, di mettere sotto, cioè l'altro dibattito che dovremmo riprendere è quello che la tecnologia non è mai indifferente, come non lo è la legalità, come non lo è il diritto. La tecnologia è sempre di una parte, in questo caso è del capitale, ma anche la scienza lo è. È un po' tutto, però non è che va data come taglioni, come assioma, è così, questa è la Bibbia, non per... no, ma ragionare solo per trovare in ogni posto di lavoro, in ogni momento, solo così può rinascere il conflitto, trovare il modo, conoscerlo, come la tecnologia e la scienza ha rifatto la catena di montaggio che noi intesi come proprietà, io non c'era una catena di montaggio, cioè che noi gli abbiamo distrutto, e l'ha riformulata sotto altre forme, utilizzando la tecnologia e la scienza. Quindi la tecnologia e la scienza sono del padrone, non sono neutre. Quindi come pensiamo noi, questo rivolto a tutti quelli che per esempio passano le loro giornate sui social network, per carità, però come pensiamo di utilizzare per i nostri fini gli strumenti tecnologici e scientifici del padrone? Domanda che lascio ovviamente. E per finire, volevo dire quest'altra cosa, aspettate, ho scritto da qualche parte. Vabbè, niente, l'ultima parte che ringrazio Otto di averla messa, no? Quella che appunto ho scritto 6 mesi fa, era proprio, io l'ho scritto sul documento perché volevo proprio tracciare un filo rosso. Chiamiamolo così, c'è una storia questo discorso, lo usavano un po' i bordichisti per dire che, però a parte queste cazzate, filo rosso significa anche comunemente una tra quelle cose che dicevo dei 40 anni, 50 anni fa e quello che penso adesso, perché quello l'ho scritto nel dicembre dello scorso anno, 15 mesi fa. Vedete voi se la cosa può, ma era solo per dire, mi interesserebbe discutere dentro la dinamica degli anni 70 anche di queste cose, appunto, secondo me è appunto il diritto, la legalità, la scienza, la tecnica, non sono neutrali, non sono neutrali, non le possiamo utilizzare noi per cambiare, sono fatte, se restiamo dentro quella situazione, se utilizziamo anche la scienza, che dice la scienza, poi c'è un pezzo di Marx tanto chiaro, io ho letto dopo perché non vengo a questa, però dopo mi sono letti i libri, sulla scienza è chiarissimo il dibattito iniziato da Marx e proseguito, la scienza è di parte. Allora perché, giusto, c'ha ragione Otto, non dobbiamo essere di parte noi? Quindi siamo di parte anche quando ragione. Però su questo mi farebbe piacere che, unito al dibattito, perché in quegli anni è venuto fuori tutta questa roba qui, a pezzi, poi nascosta tutto sotto il vero terrorismo, i cattivi pagati, i complottisti, cioè. Però ritiriamole fuori e rimettiamo in moto questo ragionamento. Dicevo, secondo me, se noi ragioniamo sui nuovi modelli di produzione di oggi, quelli che appunto i ragazzi che stanno scioperando, io so, veramente, quello è bellissimo, lo sciopero hanno fatto a Milano quelli che portano la pizza, no? Col motorino, è bellissimo. Ora, quanti siamo andati a dare una mano a fargli capire che quella è l'essenza di oggi, quella è la catena di oggi del mondo, allora, e farla conoscere, sabotarla, e già lo faranno spontaneamente, però dai una mano, in modo che quella cosa diventi scienza dell'altra parte, scienza di classe, per distruggere quella catena lì e tutto quello che l'ha prodotto. Vi ringrazio. Benissimo. Grazie. Allora, io ricordo a tutti che il Nido di Vespa ha organizzato la cena, se vi interessa rimanere. E detto questo, non so se c'è qualche domanda sparsa, altrimenti possiamo anche andare a mangiare e a bere. Presidente. Messa così. Siamo sospetti. La cosa è quello che dice, rispetto al fatto che ha imparato dagli operai e dai lavoratori. Poi l'ho riguardato sui libri, che è lo stesso identico percorso che ho fatto io, sì, anche se non l'avevo capito fino in fondo, praticamente, perché era un'intuizione. Poi io vedevo mia madre tornare alle 5 dalla fabbrica e l'alienazione del lavoro capitalistico ce l'aveva stampato in faccia, non è che ce l'aveva da qualche altra parte. Il fatto di lei era di provenienza contadina, è dovuta emigrare perché la terra a un certo punto ti spelle e vai a finire dentro una fabbrica. Il fatto che lei aveva perso ogni possibilità di costruirsi con le manine sue quello che gli serviva per campare, che in un'altra situazione ce l'hai comunque, perché la cicoria la puoi prendere comunque, no? Ma dentro un sistema capitalistico chiuso di fabbrica, e se non c'è, non c'è, non c'è niente da fare. E lei questa cosa qui la esprimeva in pieno. Poi dopo, quando io sono arrivata all'università, ho letto Max e ho detto, era questo. Non è che i proletari iniziano leggendo Marx, no, io lo do. Però c'è, ci sta tutta dentro le esperienze vis-à-vis che tu c'hai con l'esperienza. Lui ha fatto l'esperienza con la classe operaia inglese, infatti. Ha fatto un'inchiesta. Si è inventato l'analisi sul capitale. Quindi c'è uno strumento in mano. Però questi incontri, diciamo così, fra diversi, tra gente che io in fabbrica ci sono mai stata, per mia fortuna, anche perché non c'era bisogno che andassi, insomma. Però questi incontri ravvicinati, per me la cassa operaia, quando cominciò a fare politica, non è che era qualcosa di, no, di astratto, sto mito che alcuni per esempio ce l'avevano, sì. C'era dentro casa la cassa operaia, no, quindi non è che... e lì capisci un sacco di cose e capisci anche, ti è pure facilitata, diciamo così, la lettura, poi lo studio poi particolare del funzionamento di questa macchina infernale, sempre perché c'hai carne e ossa. No, esatto, c'hai carne e ossa, una teoria astratta e un foglio di carta, quindi le due cose messe insieme ti rovinano la vita e poi ti puoi incazzare e dici ma allora sono questi che mi rovinano la vita, e vai via, e fai tutto il resto. Però è chiaro, è importante questa cosa di dare appunto carne e sangue, cioè e ossa, a quell'immagine in quel casaca. Oggi non c'è più la classificazione delle fabbriche, ma questa è una gran cazzata, perché appunto quelli che è di Amazon non so classificare, i driver che portano la pizza non so classificare. Hanno più difficoltà, diciamo, se non c'è fallo, non c'è il meccanismo, perché intanto non c'è più il sindacato. Perché quel meccanismo lì, il padrone l'ha distrutto. Beh, è chiaro, gli abbiamo dato un faccia, non è stupido, lui c'ha memoria, il padrone, la difesa non c'ha memoria di quello che fa. Sì. Io ci sono cascato una volta, per esempio, la stessa cosa delle carceri. Allora, quando hanno dato, due parole soltanto, quando hanno dato la cosa a Carlo Alberto della Chiesa, generale, di fare le carceri speciali, no? Lui da generale, quindi abituato alle guerre, ha fatto le carceri, ha fatto 6 carceri speciali dove ci ha messo tutti i cattivi, noi più di Italia cattivi. Ha sbagliato, perché con l'idea del campo di concentramento, che fa la guerra, no? Io mi metto, però la guerra ha delle sue regole, no? Nel senso che quelli il campo di concentramento in genere non si rivolta, ci ha messo tutti insieme, abbiamo fatto più casino nei carceri speciali e lì è sbagliato. Quando poi invece, perché lui ragiona, quando ci sono andati quelli del PC a via Renula, dentro gli uffici del Ministero della Giustizia, hanno detto non si fa così. Hanno fatto i gruppetti dei 3-4. Mi dicevano i compagni da TAP, sono stati. Erano in 4. In 4 poi fanno la lotta, poi fanno un cazzo in 4. La socialdemocrazia tedesca ha fatto di meglio, li ha messi da soli. Quindi... Loro potevano fare quelle cose, c'erano forse messi da soli. Però mentre qui hanno fatto la cosa militare, che non è che ha scherzato, perché ha sparato sui tetti quando no, quel ragazzo che è morto da voi a Firenze, del padrone, no? Quel ragazzo di 19 anni, il tentato fuoco, quindi ha sparato, però è sbagliato mettere tutti i cattivi insieme, perché così intanto no, sono cervelli in comune che possono lavorare, ma possono anche fare dei rivolte, infatti sono state fatte, quindi non è una cosa molto... Poi caldo ai No, per dire che infatti il politico è sempre più pericoloso anche del militare. Il militare meno, fa male, spara, d'accordo, però non c'è la capacità di capire come ti impedisco di muoverti, no? Posso dire una cosa da femminista, trascinando su un altro piano di esperienza, che raccontare le storie delle militanti e dei militanti non è soltanto rendere giustizia a dei percorsi e a delle persone che hanno fatto determinate scelte, è anche un modo perché gli altri si riconoscano in questo, cioè è un po' il percorso che noi come donne cerchiamo sempre di fare, cioè raccontando quello che succede a ognuna, il percorso che ha fatto ognuna, un'altra leggendo dice non sono sola, è successo questo, sono successe queste cose, sono stati fatti questi percorsi, è uguale al mio o comunque simile al mio, è quello che sta succedendo a me o è quello che è capitato a me, oppure adesso è diverso però ci ritrovo tante cose. È anche questo, perché uno dei motivi per cui tagliano il filo della memoria è perché chi lotta adesso non abbia retroterra, non si sappia riconoscere in niente. Credo, scusate, che ci sia Da ignorante storica, ma da amante delle storie di vita e della memoria, quindi credo che appunto tutto questo sistema si basa sempre più sull'individualismo e quindi non sulla collettività, quindi i writer stessi rispetto che ad altri piccoli gruppi che decidono di unirsi per cercare di far ascoltare la voce, tagliata prima di tutti dagli abusi di violenza che ci sono da parte delle forze dell'ordine, ma dall'altra parte è perché non abbiamo più sinceramente né la coscienza né la voglia, chi lo sa che cos'è, di riuscire ad unirsi per cercare di cambiare, perché magari forse culturalmente, no, siamo in uno stato dove si decide di sedersi negli ultimi anni, accontentarsi di questo benessere che ci stanno dando e dell'individualità, per non renderci coscienti nel fatto che unendoci possiamo fare qualcosa. E quindi si sta perdendo, non c'è più uno scambio, anche solo di uno sguardo su un mezzo pubblico quando c'è una situazione di malessere, di indignazione nei confronti di una persona. Quindi come si può riuscire ad uscire da tutto questo? Cioè, noi stiamo parlando di un grande contesto, che è giusto il diritto, no? Il fatto che tu prima dicevi che hanno abbattuto la catena di montaggio, una mia amica ha perso un dito tramite la catena di montaggio alla Fiat, no? Quindi, e ti parlo di 6 mesi fa, quando tu scrivevi giustamente il libro. Quindi la cosa è, come riusciamo ad uscire da questo stato di totale a essere ameba, no? Essere di totale paralisi, se noi stessi, quando ci succedono delle ingiustizie nel nostro quotidiano, solo uscendo di casa, siamo i primi che abbassiamo lo sguardo e ce ne andiamo. Ma cambiamo il sistema economico. Cioè, prima si trova al lavoro, adesso non si trova al lavoro, adesso c'è il precariato. Vabbè, ma si può parlare, il precariato non è che di per sé. Sì, ho capito, ma per il lavoro. Capito, ma è andato un precariato di 800 in Italia, ma non si precario. Ho capito, eppure allora hanno fatto il precariato. Hanno costruito il movimento operaio nell'800, mica adesso. Sì, sì, quindi certo. Non è il precariato, sono tutte le difficoltà, sono una cosa. Certo. La possibilità, lei diceva, ma io mi ricordo quando io andavo a lavorare in quegli anni lì, quando ho cominciato 61, 62, 63. Io prendevo, boh, me l'ho fatta la rispetta, io andavo con i mezzi pubblici. La mattina era un dibattito normale, su, prendiamo il tram, che era il tram allora, che andava sulla Prenestina. Era un dibattito, ma un dibattito, era un comizio, un convegno. Ma cioè, si discuteva, si parlava. Cioè, queste cose non è che te impedisce, basta volerle fare, si fanno, scendi per strada. Io vengo nel posto di lavoro, contratto precario, ma se sta zitto, perché sennò dici io come mangio, ho famiglia, figli, che faccio? Quello è il problema. Ma prima la famiglia pure grossa, però la famiglia. Prima del lavoro, magari c'era da provare, magari ne perdivi una. C'era, ma per me c'era un fastidio in fabbrica che mandava via dopo 10 minuti. Quando voleva, quando era fittizio. Non c'era più il gioco. Cioè, c'era forse di cambiare ogni 2 secondi la stessa cosa, però all'epoca comunque sì, ok, la trovavi uno dopo 2 secondi, ma dopo 2 secondi ne trovi uno dove facevano la stessa filiera, cioè, dopo 10 minuti che stai zitto, che è la stessa cosa di adesso, solo che il contratto cambia fondamentalmente il concetto di contratto che blocca. Cioè, forse una volta uscite dalla resistenza, usciti dalla resistenza, c'era questa voglia ancora di lotta e di continuare. Quindi è più bravo, quello che dice sì, per noi sono le stesse cose compatibili, ma che si dà uno dalla risposta con l'altro, però non si riesce a trovare una soluzione perché forse non c'è una ora, non c'è l'unione e non c'è l'unione, perché quando magari uno esce di casa dal lavoro dopo 8 ore che è stato sfruttato, non lo pagano e te rode il culo perché vorresti dar fuoco a tutto, la prima cosa che fai, arrivi a casa, ti siedi o ti attacchi al tuo telefono, anche se lo esci dal lavoro, o ti attacchi al tuo telefono senza sapere che di fronte hai una persona con cui socializzare e con cui scambiare magari il tuo stesso stato d'animo, e poi ti rinchiudi nella televisione guardandoti Amici di Maria De Filippo rispetto ad un'altra cosa. No, magari no, nel senso, però è questo l'italiano medio che purtroppo è stato costruito e che si adatta a questo. Ma perché non c'è un'idea, dire un ideale, insomma, non vorrei fare discorsi, però perché non c'è un immaginario che attraversa tutti una speranza, un immaginario, cioè questo che il sistema è stato capace di distruggere, è questa cosa qua che impedisce il fatto di socializzare, il fatto di vedere il vicino con l'altro occhio, il fatto di non accoltellare il collega d'ufficio per la promozione, perché tu in effetti vivi in quell'universo lì e non hai prospettiva. Ricostruire un immaginario altro rispetto a questa società penso sia fondamentale, è difficilissimo, però E tocca cominciare smontando alcune cose, cioè bisogna smontare il concetto di legalità, il concetto di meritocrazia, il concetto di violenza politica. Ci sono dei nodi che sono da smontare e, per esempio, dirò una banalità: se una sul posto di lavoro si trova in difficoltà o compagnia bella, non è lottando per 10 euro in più per un mezz'ora più corta che smonta questo, ma smontando il percorso gerarchico, smontando il percorso meritocratico, anche nella scuola, cioè rifiutando il preside padrone fai un certo tipo di lotta. Stando a cincischiare su un'ora più, un'ora meno, non arrivi da nessuna parte, cioè ci sono dei nodi fondamentali da smontare e da recuperare, perché in questo modo possiamo anche trovare un filo conduttore a tutte le lotte, nel senso, se io smonto la gerarchia nell'ambito femminista e la smonto nell'ambito del lavoro e la smonto in un'altra cosa, io posso portare a sintesi le lotte, altrimenti sono tutte cose staccate che non riconoscono il nemico comune. Ad esempio, anche il riconoscimento del nemico è una cosa importante. Volevo però aggiungere una cosa a questo che dicevi, perché veramente ci giriamo intorno, altrimenti, cioè, si è parlato fino ad ora di quanto si stesse bene negli anni 70, di quanto fosse bello il conflitto, eccetera, eccetera, però manca poi la riflessione che non è mai avvenuta, anche perché poi, per esempio, nel caso della storia del Brigate Rosse, che finisce con una media di 30 anni di galera, divisioni, eccetera, però manca quel che è mancato, i motivi che hanno portato a quella sconfitta, perché in quegli anni c'è stato il conflitto, sì, ma si è perso. E da lì, da quei nodi, da quei nodi non siamo usciti ancora. O comunque una riflessione che abbia appunto lo spessore e la capacità per proporsi come altro oggi, che abbia forza di aggregazione, non c'è. Quanti fallimenti dovremmo fare prima di... No, però se tu non hai... Nessuna rivoluzione riesce a primo colpo, come Parigi è stata massacrata, probabilmente hanno fatto tutti gli errori possibili, sono morti un sacco di gente, però quella sconfitta è stata comunque un fanale per tutti gli altri che si sono ribellati. Cioè, si passa attraverso, ma anche quella sovietica è stata sconfitta, perché poi è finita, quindi è finita anche male. Quindi e non è che non possiamo pensare che riesce al primo colpo d'amblè, né possiamo pensare che la riflessione può dare tutti gli strumenti che vogliamo per andare ancora avanti, ma non la soluzione non c'è quando, a parte, io penso che la rivoluzione sia pure un processo infinito, tanto questo l'ho imparato, perché è così, perché tu dislochi in avanti le contraddizioni, non è che le fai sparire, le contraddizioni si riproducono. Anche se abolisce la proprietà privata, quando fatti in un'esercizio di abolisci un sacco di cose, fai il famoso stato proprietario, che secondo me è una cazzata, comunque poi questo un giorno ne parleremo, perché appunto sempre stato è che è differente, però quel paradigma là, quello che ha messo insieme non l'Unione Sovietica da parte, quello, era il socialismo, cioè il passaggio era quello, sì, stato, dittatura, certo. Proletariato, certo. Ma prima ancora di questo c'era il problema del modo di produzione, cioè certo. Cui lo sviluppo delle forze produttive, l'hai detto tanto bene, cioè la tecnologia non è neutra, cioè si è visto con l'Unione Sovietica, non è che è crollata perché erano dei burocrati, ma perché Chernobyl ha dimostrato che in termini di rivoluzionare il modo di produzione non era stato fatto, quindi anche riuscire a capire che il grosso fallimento stava all'interno, non è che ce la potevamo prendere con i cattivi, i padroni, i cazzi e mazzi, loro sempre. Però alcune le defaianze più grosse ce l'abbiamo all'interno, quindi o superiamo quelle, quindi ricominciamo a riragionare su un terreno, c'è la citazione che fai di Rosa Luxemburg, sì, certo. Che è fondamentale, cioè a ogni passaggio di fase ci stanno strumenti che non è che qualcuno l'ha previsto. Nessuno prevede mai niente, no, no, perché altrimenti non si capisce perché negli anni 50 in Italia, che si era usciti dalla guerra con la resistenza vittoriosa, con tutti i piani cinesi terribili, perché la controrivoluzione è stata, certo, gli è fatto un mazzo così, bravo, no, ma i licenziamenti politici, i comunisti e socialisti buttati fuori dalle fabbriche, cioè i fascisti in polizia, è stato terribile negli anni 60, dove il capitale te offre anche una, come dire, un po' del benessere in più, no? Il frigorifero, la lavatrice, compagnia me, perché quel movimento là se subito si dichiara anticonsumista, non era una moda, un angiro stracciati, è che si diceva non ce ne frega niente di questa roba qua, perché dentro questa roba c'è sta il trucco, quindi non voglio lavorare di più per averci più cose, ma voglio averci il tempo libero per poter fare politica, per poter fare la rivoluzione. Boh, in linea de logica, questo dovrà succedere negli anni 50, non negli anni 60. Quindi questa cosa non è prevedibile mai. E quindi va a capire te. Vedremo, qualcosa che esce fuori, ve l'ho detto, questi ragazzi qua che so. Tutti dicevano, questi sono super sfruttati, tutti a piangere, ma nessuno faceva niente. Hanno fatto uno sciopero da soli e nessuno, c'è il sindacato di base, eccetera. Cioè, hanno riscoperto il comitato, penso quello che era sparito sotto questa proliferazione dei sindacati di base, che io non mi sopporto, quella è una cosa mia, e che invece questi hanno fatto il comitato. Questo l'ha chiarito bene. Io l'ho chiarito, hanno fatto lo sciopero, cioè, capito? Ma senza le protezioni, niente, perché sono trattati come lavoratori autonomi. Certo, quando c'hanno incidenti, se rompe il motorino, devono pagare tutto loro. Quindi, allucinare. E hanno fatto lo sciopero. Quindi c'è la possibilità, che ne so, e le cose poi sorgono. La realtà è la nostra, ma io ho imparato questo. La scuola dei comunisti o dei rivoluzionari è la realtà. Dobbiamo andare a scuola dalla realtà. Questo va iniziato alla realtà. No. Poi pure i libri, però prima la realtà e poi vengono. Una riflessione al volo su questo, tanto su quello che hai detto voi sull'istituto pubblico, è pure parecchia roba peraltro, no? Il discorso qual è secondo me? Che se è vero, e lo credo anch'io, che c'è la storia, non si peroncella il lago immobile né con la rivoluzione né con la controrivoluzione, il lago immobile in cui si ferma tutto, no? Ma che conflitto di classe, e quindi c'è un motore continuo che credo che risuccederà qualcosa, ancora in forme diverse, chissà quando, chissà perché, eccetera, eccetera. Però poi è vero anche che rispetto ad oggi un po' di analisi, no, del punto qui, cioè di quanto è buio la notte, cioè, forse è necessario farla, anche perché insomma lo è parecchio. Per come la vedo io, stando il fatto che conflitti, la divisione di classe esiste, quello che manca. Sono anche a dire, insomma, una vanità, è un po', dico, la coscienza di queste visioni, di questa conflittualità da pensare tra le classi, no? A questo proposito, è stato fatto spesso il parallelo anni 70, lottare la resistenza, no? A me pare che ci siano due differenze, poi riducibili a una, no? Che la resistenza, ma l'ha detto adesso Barbara che mi ha un po' preceduto, cioè, la resistenza usciva vittoriosa, quanto è una vittoria mutilata, però usciva vittoriosa, poteva essere fondamento, diciamo, dello Stato repubblicano, poteva cantare la sua epopea, eccetera, eccetera. Negli 70 si è perso, ok? Quindi è la solita sconfitta. Questo cosa ha portato, che è il secondo aspetto di differenza, che c'è stato una mancanza di trasmissione di certe esperienze, probabilmente, mentre c'è chi poi è riuscito a riprendere in mano le sorti del conflitto di classe negli anni 60, no? Dopo gli anni 50, eccetera, tutto quanto, aveva i padri, spesso i padri che i nonni all'epoca, che gli trasmettevano quello che era stata la loro esperienza di conflitto di classe, non solo come facevano di classe, no? Dentro alla dittatura fascista e contro. E quindi c'era una trasmissione. rispetto ad oggi forse quella trasmissione è mancata, no? E quindi andiamo a quello che hai detto stasera, no? Sul rimosso degli anni 70, sull'immaginario, eccetera, eccetera. È un qualcosa che è mancato, che secondo me deriva molto dalla sconfitta, molto da quello che ha messo in campo lo Stato poi rispetto a, quella sconfitta, molto da come è cambiata l'economia, perché quando si dice appunto logge, io non penso che quando si facevano le lotte si vincevano e si ottenevano, il lavoro era più tutelato, anzi è iniziato ad essere un po' più tutelato quando si è lottato, si è conflitto, eccetera, eccetera, e si è perso quella poco di tutela appena c'è stato un arretramento, no? Quindi adesso c'è, è tutto frutto di questo dire mola, di questa. Quindi il discorso non è manco troppo quello lì. Il problema è che ad oggi purtroppo manca un orizzonte, manca, cioè una. Che non è detto che non ricompaia il discorso dell'inizio, manca quell'orizzonte lì. E questo discorso qui sulla coscienza di classe, quindi sul recuperare una linea di trasmissione, sul lavorare, sull'immaginario, che però sono, la vedo come due gambe che, cioè, di cui una non basta, perché l'immaginario in provetta non si costruisce senza riattivare un connettere le rotte, il connettere le rotte non funziona senza che ci sia un immaginario che lo supporta, no? Quindi sono due corni dello stesso problema. Porta anche poi al discorso sulla violenza della lotta armata, no? Che è l'altra riflessione che veniva di tutta la. Parlare di violenza, cioè il problema secondo me, che principale da storico e da compagno, è che nei standard è che non si parla, e che si parla, cioè chi ne parla, tendenzialmente non sono i compagni, almeno a livello diciamo più massificato, parla solo della violenza, e parlare della violenza in questi modi è proprio il modo migliore per esorcizzarla. Cioè il problema è esattamente quello, cioè quando tu dicevi lotta armata che cosa non è, è tutto quanto, no? E possiamo, adesso possiamo dire che cos'era allora e fare risingue, ma certe parole hanno avuto uno scivolamento semantico spaventoso. Io ad esempio, no, facendo ricerche, terrorismo all'epoca veniva usato dai compagni riferendosi alle lezioni di lotta armata, ad oggi non che se lo usiamo, ad oggi non lo possiamo più usare, perché è un'altra cosa. Consapevole del fatto è, lotta armata, all'epoca i compagni che criticavano le BR dicevano noi facevamo lotta armata, cioè è talmente tanto complesso, no? Che quindi parlare della violenza ad oggi, sì, ci si può chiarire su terminologia storica, ma il modo migliore per poi ripradicare il conflitto è non parlare della violenza, e come diceva prima, riparlare di tutto il resto degli anni 70. Questo è il rimosso non sono gli anni 70, gli anni Piombo sono una delle pagine di storia più presenti nel dibattito pubblico a livello di uso politico. Il rimosso è tutto il resto, che attiene poi all'immaginario, attiene alla riattivazione del conflitto di classe e tutto quanto, oltre all'altra gamba, come dicevo prima, che quella però ci sta, perché se esistono i padroni e i salariati, il conflitto c'è. Poi sta sotto la cenere, tocca capire come spazzarla a un certo punto sta cenere, eccetera, eccetera. Quindi il discorso mi pare proprio centratissimo sull'oggi, molto più che sulla storia. E mi pare che appunto tutti i discorsi, poi il fulcro sia quello lì, sia quello di recuperare una coscienza di sé e una coscienza della professora di ciò che si è fatto, che effettivamente c'è stato un intoppo nell'ultimo quarantennio, che ripeto non credo sia definitivo, ma che, cioè, attiene proprio a iniziative come queste di recupero, l'immaginario, l'egemonia, tutto quello che si è tirato fuori in questa serie. Due spicci di riflessione. Ma poi riguardo all'Unione Sovietica, no? Nel 17 fa lì l'aggancio con la Germania, quindi non era possibile il socialismo, se andava a finire il capitalismo del Stato, questo è stato la fine. Quindi c'erano in poche parole due capitalismi, quello, diciamo, che comunemente chiamiamo capitalismo, e il capitalismo del Stato. Sì, no, è vero. Hanno pure abbassato tipo scegli, però. Sì, non che si poteva eliminare, cioè, non c'è tanto male, ma pure male, perché si bene, non è male. Comunque sì, è serio, chiaro che sì, sono stati subordinati all'idea capitalistica, come oggi la Cina, che si chiamano comunisti, pure il Partito Comunista. Sì, ma il problema è che la transizione c'è mai stata, cioè sto Stato non è mai scomparso, no, il partito non è mai scomparso. Tutto, polizia, carcere, tutto quello però che c'è. Però sono scomparsi i Soviet, che mi pare un piccolo problema. E quello era l'unico elemento. Bene, diverso mondo. Grazie per tutto. Tocca lavorare.